Mi sembra strano che dal 90 non tocchi palla, cara Carla. Cioè, dal 90 non vedi un uomo nemmeno col binocolo. Allora, sentimi bene bene. Dimmi. Io te ti ho visto per televisione. Beh, sì, allora? Io con uno come te, ma con chi ce l'ha? Con te, però. Con me, sì, neanche se me lo fai questo. Vedere. Ma ce l'hai con me o con Parenzo? Non ho capito. Con tutti e due. Ma l'hai visto pure Parenzo? Siete due mostri. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A parte che volevo dirti che comunque la zanzara è un pompino radiofonico straordinario, siete straordinari. Oh porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diebo, disgraziato Diebo, tanto ciao. Quell'ori da schifoso. Davide, ti sei accorto che abbiamo cambiato regista oggi, eh? Sì, sì. Abbiamo cambiato regista, il quale si diverte, ovviamente, signor Pietro Lacorte. Lacorte, il quale si diverte. È un nome di battaglia, Lacorte. No, il quale si diverte ovviamente a mettere il peggio del peggio del peggio che è uscito fuori dalla zanzara, evidente, no? Cioè, piccoli pezzettini così per dare subito il tono. No, ma la trasmissione, ma cioè, nel complesso è buona, te lo dico, adesso voglio dirti. È una però bella basta con questa storia, veramente. È una bella trasmissione, sì, vivace, però funziona. La gente non ne può più di questa gag, ma molti ma hanno detto, gag, basta è una bella. Ma basta cosa che decido io, sono pagato, decido io. È una bella basta, trasmissione, dai. Fatelo dire, è una bella trasmissione. Però dopo un po' stufa, posso dirti. Sì, sì, vabbè, come tutte le cose. Voci, come tutte le cose. Sta gente, sti miserabili. Si sa già che chiamerà il coglione di turno. No, non è vero, non è detto, non è detto, non è detto. Tutti miserabili, mai che chiami un luminare, un intellettuale, mai, mai. Ma non va è vero, bene così, ma dai, è vero, bello di questo, questa baracca inaudita. Andiamo avanti, vai. Parla di figa, per favore. Ecco. A noi non frega in casa di niente. Ecco il filosofo. Ecco il filosofo, vedi il regista maschio subito, vedi come butta, no? Allora ragazzi, oggi partiamo però da una cosa molto molto seria. Sì, oh finalmente. Tutta molto molto seria. È vero, è vero. Piazza Affari, la fuga dal listino. Questa è una notizia interessante. No, cioè, no, direi di non questa. No, no, parliamo della questione Trump dell'hotel. Trump inizia da Israele, no, sposta Trump, l'ambasciata. A Trump ci arriviamo. Però okay. Ti dico una cosa, la questione dell'hotel Rigopiano, tutta la tragedia che sappiamo. Sì, stanno cercando ancora le persone disperse. Allora, c'è il padre di uno dei dispersi, sì, che si chiama Stefano Feniello. Come Feniello. La fidanzata è riuscita a salvarsi, pare che si tenevano per mano, almeno dal racconto della fidanzata, eccetera. Il quale è incazzato come una bestia. Beh, ti credo. Come una bestia. Eh no, gli altri stanno zitti. Lui ha parlato, il signor Alessio Feniello ha parlato. E ha fatto un paragone clamoroso. Ha detto, ragazzi, l'ha detto lui, non è che l'abbiamo detto noi, eh. Cioè, ha detto, andiamo a prendere i profughi, ha detto oggi, ieri, non mi ricordo, nelle ultime ore, andiamo a prendere i profughi, state attenti, non siamo in grado di recuperare 30 persone. Sì, non è una polemica. No, ma puoi dire anche se sei il padre di una persona che è dispersa, sì, là ma sotto. Ma non è una polemica contro i profughi. Puoi anche dire, no, devi avere il coraggio di dire, tu che difendi sempre i profughi, no, gli immigrati, no, che ha detto una minchiata. No, ha detto un'altra cosa. Tu, ha non detto, puoi tanto dire siamo... i genitori delle non persone disperse. Ma cos'è dalla vostra parte questa cosa? Non era contro. Aspetta, i profughi. Non senti, farmi urlare. Senti, il cardiologo non è una... ma ha detto l'altro giorno. Mi ha vado una volta al mese. Mi ha detto, guarda, quando lei fa sta roba della zanzara, bellissima, la trasmissione è bella, le voci, le musichette, sì, sotto, sì, la sì, gente che insulta, Cruciani che è terribile, tutto meraviglioso. Però lei non urli tanto, perché ha 40 anni e non può urlare. Dico, guardi, però come sia lei, ha detto, non si arrabbia, quando fa quelle sue urla, stia calmo, perché le può prendere un infarto. Dico, guarda, che quel cinico maledetto di Cruciani potrebbe anche volere questo, potrebbe anche auspicare, no, la mia, no, morte, no, in diretta. No, no, no, no, perché no, poi su quello costruirebbe tutto un grande racconto popolare sulla mia morte in diretta. Quindi va bene, sto calmo. Esageriamo. Se lei lo faresti. Però sicuramente sentiamo. Io agonizzante con la bavetta che dice: allora perché non parli? Allora sentiamo Dalto Tavarese. Ecco, è morto l'ebreo, Mauro davanti. Ecco, è morto, agonizzante con la la. Ma io non ti do questa soddisfazione. Senti, perché io adesso rimango qua in silenzio per, i prossimi senti 3 Alessio minuti. Feniello, senti Alessio Feniello, senti Alessio Feniello, questo è importante. Il padre, io sto zitto, no, però adesso. Non prendere, non affrontare anche queste cose qui in maniera sì, no, Alessio Feniello, dai, sentiamo. Noi andiamo in mare, abbiamo delle attrezzature che fanno paura a prendere i profughi, li portiamo ai centri d'accoglienza, negli hotel 4 stelle, gli diamo assistenza, non siamo in grado di andare a recuperare 30 persone. Andiamo sulla Luna e non sappiamo recuperare le persone qui. C'ha ragione. Sì, no, non ha, io devo dire la verità, non ha ragione. Non no, è la stessa cosa. Ha detto una cosa non parenti... contro i profughi. Beh, come no? Non è contro, a tutt'altro dice. Sì, un po' sì, abbiamo dai. L'umanità e la capacità di gestire quel flusso, cioè li sappiamo, li recuperiamo quando non muoiono in mare e non sappiamo dare conto, dare seguito a un allarme che c'è stato in un albergo per salvare però, delle ragazzi, persone. Si può dire, ma si è può un dire che uno sconvolto per il fatto che ma il figlio è là sotto. I profughi, non è Salvini, è un signore. Ma non ha detto che ha attaccato i profughi, ha detto che ha fatto un paragone che non c'entra niente. Dai, no, su. Ha fatto un paragone per dire: abbiamo la andiamo sulla Luna. Senti, non è vero. Andiamo sulla Luna. Un capo di un albergo manda una mail dettagliata dicendo: attenzione, siamo bloccati da un giorno. Ma non è c'è così la frana, abbiamo la cosa, paura dai. E nessuno è venuto lì. Non ha dato... Infatti, c'è un'inchiesta della procura in corso. Vabbè, su questa che roba. Vuol dire. Andiamo sulla Luna. Qui le aprono un'inchiesta su qualsiasi cosa. Dai, apriamo. Non penso che oggi non abbiamo i mezzi per andare a prendere delle persone, cioè, secondo me ce l'abbiamo. Andiamo sulla Luna, fare che cosa? Avete gli scoiattoli, se ci sono, e non recuperiamo le persone qua sul posto. Quelli nell'albergo, dice Alessio Feniello, ripeto, il padre di una delle persone disperse che stanno ancora là sotto e ovviamente speriamo che sia viva, sequestrati e uccisi dallo Stato. Ma poi dice che tutti si erano preparati le valigie, da quello che so, tutti, tutti. Le persone che sono morte fino adesso sono state uccise per me. Chi invece ancora non rientra è stato sequestrato contro il suo volere. Cioè, sfido chiunque di voi a dire il contrario. Cioè, se lei vuole tornare a casa e io non glielo permetto, che cos'è quello? Beh, c'era anche la questione del tempo, ecco come dire. No, ma poi le persone, i parenti, cioè in Italia la cosa per cui i parenti hanno sempre ragione, no? Cioè, qualsiasi cosa dicano hanno sempre ragione. Non serve, però dire stato che emotivo... quelle persone lì, è una cosa un po' sgarbiana di queste ore, dire che quelle persone lì sono state uccise dallo Stato, chi è morto naturalmente, quelli in che parte, sono... In parte non dallo Stato, da beh, chi quello dice il signore, dai, su, ragazzi, inutile che stiamo... In parte è lo Stato, in parte è vero, certo... Beh, è diventato grillino improvvisamente, però insomma siamo contenti. Smontare una porta e scendere, addirittura lui dice, per salvare mio figlio sì. bastava smontare una porta e scendere. No, ma è chiaro che era impervia la situazione. No, ma oggi... senti, signore no, Daniele, però... senti, sentiamo, Daniele. Sentiamo, va bene, sentiamo, scusami, sentiamo. Allora anche il titolare dell'hotel poteva tranquillamente dire: signore, le condizioni non ci sono, prendiamoci un pezzo di tavola per uno, una porta, smontiamo una porta, ci sediamo sopra e scendiamo piano piano. Noi gliel'hanno permesso di tornare, la sua vacanza era finita. No, lui dice in realtà potevano salvarsi smontando le porte e sciando, cioè il direttore dell'albergo, non quelli che sono arrivati dopo, potevano fare delle cose. Bah. I ministri si devono vergognare. Che vengono a fare adesso? A prendersi il merito? A prendersi per il culo? Diteglielo questi signori ministri. Fanno schifo, è una vergogna, si devono vergognare. Hanno sequestrato 30 e passa persone in un hotel con tutti i mezzi che abbiamo in Italia. Si devono vergognare. Poi a un certo punto dice: sto aspettando da 3 giorni mio figlio, mi prendono per il culo. E i carabinieri, se non sbaglio, o comunque la polizia, lo porta via un certo, perché lui stava parlando lì davanti ai giornalisti, attaccando lo Stato, una strage di Stato, sequestrati, sì, uccisi, una cosa anche un po' sgarbiana di queste ore in cui Sgarbi dice: non è possibile che questi non siamo riusciti a salvarli con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, eccetera, eccetera. E lo portano via. Gendai, io sono il papà di Feniello Stefano. Sto aspettando da 3 giorni mio figlio. Sono il papà di Feniello Stefano. Sono il papà. Ma non gli hanno detto nulla? Ma hanno detto che mio figlio lo stavano recuperando, ancora non arriva. Un cazzo. Ma voi state aspettando all'esterno qui a Porto Soccorso? Non vi stanno prendendo entrare. Solo per il culo, quello è il problema. Ci stanno prendendo solo per il culo. Poi viene il ministro a fare le interviste. Lasciatelo parlare però. Lasciatelo parlare, se vuole parlare lasciatelo parlare. Poi a un certo punto dice pure: mi vendo tutto, sono disposto a vendermi tutto pur di avere giustizia. Vabbè, vedremo. Allora, ragazzi, non c'è vorno sta, è inutile, manifestazioni per l'insediamento di Trump, caro Parenzo. No, la cosa che mi sorprende è, a parte le quattro deficienti che erano in Italia, che manifestavano contro, che manifestavano contro cose che ancora non sono esistite, che ancora non ci sono, solo per la figura di Trump. No, ma per la figura, per quello che ha detto in campagna elettorale. Gatti, quattro gatti, chi se ne frega. Vabbè, ma è un movimento di popolo, va sempre bene. Movimento di popolo. Gente che scende in piazza. Movimento dei salotti, attento, no di popolo. Movimento dei salotti. Salotti. Sono guarda che ma quali donne. Il tuo atteggiamento è pari a quello di Erdogan, che ha disprezzo per le manifestazioni pubbliche. Persino Saviano. Tu più del po' ha detto che è un movimento vecchio. Ma può far sorridere Saviano. Anche me, ovviamente. Però se no, la gente va in piazza per esprimere un dissenso verso il potere, non è che uno. Beh, sì, Trump oggi rappresenta il potere. Allora, però senti questa cosa qua, senti questa cosa. Sì, proprio Erdogan dentro. Sì, ma quando mai? Quando vedi manifestazioni di piazza di gente. No, ma Madonna, anche negli Stati Uniti c'era Madonna a fare. No, ma hanno censurato Madonna. Questo se mai vuoi dire. Cioè, ha censurato chi? Il network americano. Tu non hai letto. Evidentemente non hai letto perché sei stato con qualche prostituta in qualche nobilissimo come si dice resort svizzero con qualche prostituta a pagamento. Si vede che hai comprato l'amore in questo weekend. Non ero a Davos dove le puttane costavano anche 1200 esatto, euro a notte. Ho letto beh, certo, sono tutti ricchi. Quanto devono, cosa devono portare? Quella lì nel camper che chiami tu, come si chiama quella prostituta pordenonese di 80 anni? No, avranno delle bellissime donne da 1200, non quella lì di Pordenone che vive si chiama Maria, che non la chiama Maria. Nessuno Maria, ti chiamerà stasera. Quella da Davos non ci va perché la vedo, dico mamma mia che roba, è la strega malefica, vada via. No, ma dici, io sono una prostituta, ma quale prostituta? Quella anche 30 euro dici, quella anche... ma quella manco se te la regalano non se la prende. Comunque non volevo polemizzare con la simpatica signora, con Lucia prostituta di Pordenone che chiama alla radio. Non, non va a Davos, dici, no, non va a Davos a 1200 botta. Ma non va neanche sul raccordo anulare, sta lì a Pordenone in quel camper e ogni tanto telefona a noi, ma figurati, è fuori attività da sempre. Cioè farà 30 euro al mese se è tanto. Ma neanche, ma li deve pagare lei. Vabbè, comunque Madonna. La polemica non è questa. Madonna è stata censurata dai media americani. Ma chi se ne perché frega. Nel suo intervento dal palco ha detto un sacco di parolacce. A un certo punto ho letto che i media americani hanno oscurato il suo intervento in diretta. Comunque, quella che voleva fare i pompini a chi votava per la Clinton ha detto anche che ha pensato più volte che la Casa Bianca dovrebbe esplodere. Ecco, signora Madonna. Esatto, capito? Quello l'hanno tagliato. La grande manifestazione pacifista contro il macho Trump e contro il sessista e guerrafondaio Trump. Hai ragione. Arriva Madonna, quella che voleva fare i pompini. Vabbè, a chi votava per la signora Clinton. Beh, questa è stata, come dire, nella politica è entrata per questa polemica qui, no? Cosa dice? Sentite. Yes, I'm angry. E chi se ne frega? I am outraged. E chi se ne frega? Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House. But I know. But I know. Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. La Zanzara. Domani vado dal capo del personale e gli dico: non faccio operaio, non faccio operaio e voglio anche stipendio. Oh, caro Davide, veniamo all'attacco ferocissimo di Sgarbone contro Forchielli. Tu dirai chi è Forchielli? No, no, io lo conosco. Questo Forchielli, ho letto anche il suo libro, molto bello, peraltro. Vabbè, il potere noioso. Sì, vabbè, chi se ne frega. Bello, bello. No, fai male. Perché ma no, va benissimo, per carità. Io adoro Forchielli, quello che vuoi. Un grande polemista. Forchiellone devi chiamarlo. Forchiellone. Il quale ogni tanto ospite dal signor Milan, ogni tanto sì, ospite. Che fa anche... una bella trasmissione, però diciamolo almeno. Sì, ma insomma, non mi rompere i coglioni con tutte queste cose qui. Fammi dire quello che devo dire. Ogni volta apri parentesi per dire sì, quello fa una bella apriamo, trasmissione. Beh, quell'altro bello. Le calcola, no, quell'altro. È tutto così, dai. No, però oggettivamente di Milan, ma no, dire, ma c'è anche coso da Formigli va spessissimo. C'è. Forchielli va spesso da vabbè, ottimo. Comunque mi fai perdere il filo ogni volta. Cioè, allora, Sgarbi contro Forchielli. Forchielli si è permesso di dire che con Trump non cambia molto per noi perché siamo già nella merda, e oggettivamente non è un'analisi così, come dire, no, non è sofisticata. Noi italiani, Forchielli, può per noi. Per noi fa poca differenza, tanto siamo così nella merda, però in teoria... L'analisi sofisticata di Forchielli su Trump, con non cambia nulla, siamo già nella merda, perché è così alla fine Forchielli. Ottimo, ottimo. Sarà pure un genio, come dici tu, sarà pure uno bravo. Mi però alla fine... No, però senti Sgarbi, a un certo punto sbrocca completamente, sbrocca. Io ascolto l'amico bolognese Forchielli, che ho scoperto oggi esistere, ma siamo vissuti fino a qualche minuto fa senza Forchielli, e il fatto che tu sia così catastrofista mi fa credere che hai trovato un opinionista che va benissimo per Grillo, ma che appare all'orizzonte, non so con quale autorità dica queste cose catastrofiche, che sono molto graziose, poi è bello, pelato, bolognese, ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è? Ma che cazzo ha fatto? Ma dove cazzo viene? Forchielli. Ma qual è il suo fatturato? Ma non ride! Ma quale economia si tiene? Ma che fa ridere? Ride perché è un morto di sonno e non ha mai fatto un cazzo per quale sei grasso! Ma non è vero! Beh, io devo ancora capire però il mestiere di Forchielli, ancora è da comprendere. Ma no, però, ma cosa c'è? No, ma ancora è da capire, io non sono. Voglio sapere, dico, che mestiere intanto fa? Aiuta, no, ma aspetta, aspetta. Io lo so. Aspetta, aspetta, fammi finire. Aspettiamo, aspettiamo. Io nella mia vita ho guadagnato 20 volte più di lui senza fare l'economista e senza giudicare l'economia americana. Chi cazzo di giudice è? Abbiamo il nuovo Di Pietro che giudica Trump. Chi cazzo è Forchielli? Non ti faremo mai. Ma dove cazzo l'hai tirato fuori? Forchielli! Ho trovato Piazza Pulita. Forchielli! E l'ultimo morto bolognese che sentenzia sull'umanità. Ma vada a fare in culo. Zitto, Forchielli. Basta, vada basta, a scopare. Basta, ti diverti di più. Basta, avrà scopato anche studio. Poco. Forchielli! Forchielli! L'economia federale. Forchielli, ha la prego. Un millesimo, uno che scopa poco. Ehi, basta, ho detto la regia. Poi l'ipocrisia di dire la regia, la regia, sì, è l'ipocrisia di dire la regia, tutto questo venerdì sera. Allora, ragazzi, però una cosa deve essere chiara. Forchielli, in realtà, Sgarbi su questo si sbaglia, un grande, non so se si può dire, è stato negli anni scorsi un po' pizzicato a frequentare certi gruppi. Certi gruppi online, Parezzo. Online. Ovviamente sotto falso nome, però vabbè. Per cui, secondo me, gli dà giù, Gli dà giù il Forchiellone! Gli dà giù che gli dà giù! Sgarbi, su questo sbagli! Sgarbi poi sbrocca, senti. Perché sarà meglio Obama di Trump, quell'assassino di Obama, quel criminale di Obama, quel bombardiere di Obama. Hanno rotto il cazzo, bene. Hanno distrutto l'Iraq, hanno distrutto la Libia, hanno fatto qualunque casino e fanno anche gli spiritosi perché sono democratici. Quelli sono assassini, assassini! Poi se la piglia con Porro. Tu sei Trump e non lo sai. Ma Sgarbi mi sente? Vittorio, mi sento, scordi. Ma hai rotto il cazzo, sto un'ora qua e mi chiami a mezzanotte, mi fai parlare all'una, sei uno stronzo anche tu, te lo dirò trampianamente. Fammi venire quando devo parlare, sto qua a Vittorio! Sentire di tutto. Hai Vittorio! Rotto il cazzo. Vittorio Sgarbi. Sì. Allora, bene. Placati. Volevo comunicare. Mi stavo addormentando, ho detto delle cose miti. Hai detto delle cose miti. Allora, tornando invece a bomba sulla questione dell'albergo, c'è il tuo amico Rondolino che sostiene, Rondolino che è un giornalista molto vicino a Renzi, eccetera, il quale dice che l'albergo era abusivo. Ora, a Rondolino, ma che cazzo ne sai che l'albergo era abusivo? Cioè, non è che dire l'albergo era abusivo. Ma, cioè, era costruito, non so. È vero, cioè non è vero che era. Se fosse stato abusivo, figurati, se lo sarebbero inchiappettato a passo di carica questo qua, no? Bella questa immagine, sempre un linguaggio crudo che però rende l'idea, ho capito. No, ma ho capito, ma che vuol dire l'albergo era abusivo? Ma cioè avrà so, sanato delle cose, non lo so che ha fatto. Non mi sembra sentiamo Rondolino. questo prefetto che riceve la mail e fa finta di non riceverla, il l'albergo è un articolo di Sergio Rizza che è abusivo, non ci doveva proprio stare lì, quello è un albergo abusivo, non dobbiamo sì, neanche dimenticare appunto, questa Sergio cosa. Ha scritto un articolo subito cioè, dopo ragazzi, ci ho capito, cioè cita l'articolo di Rizzo, sì, dice che là non si no, dove Rizzo dice che lì non si poteva costruire perché è una zona pericolosa, no, in questo senso. Ma che ne so, ragazzi. No, ma che ne so, in questo senso. Dai su. Ma perché dai su? Ma perché devi dire è una cosa insopportabile tua, dai su. Ma cosa vuol dire? Dai. Ma dai su cosa? Rizzo, Sergio del Corriere ha fatto un'inchiesta, sì. Salta fuori che lì non si poteva costruire e tu dici poi Fiorello, Fiorello se la prende con Charlie Hebdo per la vignetta che hanno fatto con la morte che scende con la neve, La morte che dice che sono dei pezzi di merda. Giusto prendersela. Dice mai. Che sono dei pezzi di merda. Beh, si può così dire, ha detto. Io ho una riflessione. Avrei. Populista, no, populista e demagogo per prendere l'applauso e gli dico pezzi di merda. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, va? Ciao. Ciao. Grazie Roberto D'Agostino. No, grazie a cazzo. È stato chiarissimo. Grazie a cazzo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. La Zanzara. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Se volete dire come costruire barricate contro i migranti, o come fate pompino al vostro partner, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete dire come cagate sul cesso, o perché le cinesi non lo prendono nel culo, o come sempre volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al toppissimo. Sempre un genio questa, non c'è da fare, sempre un genio. C'è un problema nella regia però stasera. C'è proprio un escalation, un climax, come può dire, possiamo dire, no? Un escalation di eccesso di volgarità. Io lo segnalo al garante. Allora, ho letto questa cosa straordinaria oggi sul web, caro Parenzo, sul web. Dunque, Trump è odiato rispettivamente da Soros, Merkel, islamici, liberal, democratici del PD, radical chic, Star System, Napolitano, Renzi, Rai, Sky, Madonna la cantante, La Repubblica, figlio di Gassman, Il Volo, quelli di sinistra, femministe, vegani, la figlia di Guzzanti, giornalista medio italiano, attore medio italiano, intellettuale medio italiano, Saviano Prodi. In pratica, anche se fosse Jack lo squartatore, a me starebbe simpatico lo stesso. Straordinario. Antonello da Verona, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, ho sentito l'audio del genitore di uno dei dispersi. Sì. E io penso che sia una stronzata, sinceramente, mettere a confronto quello che sta succedendo ancora oggi con i migranti, con i salvataggi dei migranti. Sì. Io penso che sia una grossa mancanza di rispetto per tutti i professionisti che stanno rischiando la vita, perché sono anche loro a rischio sulla vina adesso. No, lui vuole dire, il padre di quel ragazzo vuole dire, noi siamo in grado, secondo me è sbagliato, siamo in grado di prendere i profughi in mezzo al mare, portarli in Italia, portarli in salvo, e non siamo in grado di salvare 30 persone bloccate in un albergo, questo è in sostanza vuole ma dire. Infatti, ma io adesso con tutto rispetto per il dolore di quel genitore, penso che se ci sono i migliori vigili del fuoco, il miglior soccorso alpino, e ci sta mettendo tutto quello che vabbè, che posso, chiaramente la rabbia è per quello che non è successo prima, non per quello che sta succedendo adesso. Infatti, non infatti per l'operazione di soccorso che... adesso. Tarcisio Pescara, vai Tarcisio. Ciao, senti, io volevo tutto quel genitore non ti deve permettere di dire certe cose. Farebbe in che senso bene. Non si deve permettere? Ma non si può permettere di mischiare cavoli, capre e cavoli, facendo confusione. Pensasse a piangere il figlio che è morto. Ma a parte che non è morto il figlio ancora. Che non si sa. Eh? Non si sa, andasse a piangere il figlio che è morto, che cazzo dici? No, scusa, che non si sa. Andasse a piangere il figlio che è morto. Pensasse al figlio che è morto. Io mi auguro sempre che si salvi. Comunque. Ho capito, hai detto pensasse al figlio che è morto. Amico mio, dai. Mi auguro che sia vivo, però sta dicendo una fregia di fandonerie che si potrebbe risparmiare, no? C'è una serie di cazzate, sta dicendo. No, fandonerie, non uso. Vabbè, io non me la sento di criticare una persona che ha passato dei giorni. Quello che c'è, capito, qualsiasi cosa uno dica si può criticare. No, non qualsiasi, però si capisce il contesto nel quale ha detto queste cose. Primo, secondo, non ha parlato contro gli immigrati, ha parlato contro l'organizzazione dello Stato italiano nel salvare le vite in quell'albergo, cioè i rallentamenti che ci sono stati, i disguidi, gli allarmi non verificati. Di questo sta parlando, non è che ha fatto una polemica dicendo salvano i migranti e mannaggia che li salvano. Non mi pare abbia detto questo, dai. Vabbè, Tarcisio, allora? Bisogna essere oggettivi. Un problema, cioè io ancora riesco a capire chi è Sgarbi. Prima di morire vorrei riuscire a capire chi è Sgarbi. A parte che stai parlando sicuramente con il viva voce oppure con l'auricolare, 100%. No, assolutamente non c'ho né viva voce né auricolare. Vabbè, che vuol dire Sgarbi? È un critico d'arte che fa televisione in tutte le salse da 30 anni, da più di 30 anni. Che vuol dire chi è Sgarbi? Che domanda è? Dai, su. Che vuoi attaccare il professore? Attaccalo direttamente. Attaccalo direttamente, non fare domande retoriche. Non so chi è Sgarbi. Chi è Sgarbi. No, vorrei sapere soltanto chi è prima di morire. Attacca, se devi attaccare, no? Ma attacca. Che ci deve attaccare, dai, che una volta gli hanno fatto causa, ho dovuto restituire pure 300 milioni allo Stato. Ma chi? Sgarbi. Ma che devo attaccare. Ha voglia a cause che ha perso Sgarbi, ma neanche vinta da. Senti, una cosa. Oggi stanno preparando la trappola per andare a votare prima, senza perdere... È arrivato. Prima o poi arriva sempre, vedrai. Ecco. Vedremo sta cosa del vitalizio. È da monitorare, vediamo. A settembre scatta il vitalizio per un sacco di gente, lo sappiamo. Allora... Però stanno preparando la trappola che se si va a votare a luglio lo prenderanno lo stesso vitalizio. La trappola! Stanno preparando la trappola! Non lo so, vedremo. Tu dici con un trucchetto parlamentare in cui prendono il vitalizio lo stesso. Vedremo. Rocco da Foggia, dai. Buonasera, dottor Cruciani, e buonasera, vai, dottor Parenzo. Dimmi, non ci sono dottori. Un po' con Parenzo. Allora, vorrei essere corretto se sbaglio a pensare. Parenzo, allora, secondo me io vorrei attribuire un po' di colpe, diciamo, a quest'Italia che non va. Secondo me anche la persona che ha chiamato l'altro giorno e chiamava Negretto, è sbagliato, perché l'italiano è arrabbiato contro i profughi e contro gli stranieri, ma perché non ce la deve avere con gli stranieri, lui sbaglia, non deve attaccare e dire Negretto. Chi è che deve attaccare? Lo Stato, perché è lo Stato che ci sta rendendo razzisti. Cioè tu sei diventato razzista? Io non sto diventando razzista, perché io, per l'amor di Dio, ho tantissimi amici che lavorano. Tu hai amici stranieri, come al solito, gay, amici froci, amici negri. Questo No, amici che lavorano. Io l'unica colpa che posso attribuire, diciamo, agli stranieri, agli bulgari che vanno a lavorare, diciamo, in casi che sbagliati, che per dire vanno a lavorare con pochissimi soldi. E ci sono anche tantissime persone di colore che lavorano sui camion come me, che... diciamo che a fine mese prendono pochissimi soldi e un altro po' i titolari si fanno pagare anche l'affitto, perché loro ci vivono nei camion. Vabbè, cosa vuoi dire? Non ho capito. Diciamo che è sbagliato che gli stranieri si dovrebbero mettere allo stesso livello, diciamo, con l'italiano. Poi bisogna essere l'italiano a farsi valere e a lavorare a pari dello straniero, ma non che lo straniero... Senti, dove ti trovi tu, a parte queste cose sugli stranieri, eccetera? Io adesso mi trovo a Bologna. A Bologna. Quanto ti manca ad arrivare? Mi mancano ancora un paio d'ore e mezzo, 3 ore abbondanti di strada. E dove ti fermi? Mi devo fermare a Brescia. Piazzola? No, direttamente al posto di scarico. Assalto di gay in Piazzola? No, assalto assolutamente. Gay? Una volta mi sono permesso di fermarmi in un parcheggio, mi hanno lampaggiato 3 o 4 macchine e me ne sono scappato. Ah, così? Subito? Sì. Ma c'è bisogno di scappare, che c'hanno i cosi? Ormai, non è scappare, però arrivato a un certo punto ti iniziano a dare un po' fastidio. Perché danno fastidio sti gay? Perché si avvicinano, lampeggiano, bussano vicino alla cabina. E che fanno? Tirano fuori, che fanno? Che fanno? Lo tirano fuori? Cosa fanno? Ma perché mettono paura? Lampeggiano, va bene? Chiedono paura, prestazioni non sessuali. Non mettono paura, però dopo una giornata di lavoro, una persona che ha voglia di rilassarsi, insomma, diciamo che essere disturbati così per fare 2 stronzate non è adeguato. Secondo me ci sono molti tuoi colleghi autotrasportatori, camionisti, che in realtà c'è il solito, Parenzo, la solita percentuale di gay in tutte le, in tutta la società, il 10%. Dunque, secondo me siamo molto. Tra il 10 e il 15% di camionisti sono sicuramente omosessuali. Rocco, non sicuramente, credo. Sicuramente, altrimenti non ci fossero neanche gay nelle piazzole. Per starci significa che qualcuno ci va. Le piazzole. Ogni tanto mi appassiona questo argomento. Antonio dalla provincia di Cremona, dai, Antonio. Pronto? Ciao, dimmi, ragazzi. Antonio, dimmi, vai. Niente, io ci tenevo a chiamarvi per farvi una critica riguardo giovedì scorso. Sì, che è successo Quando avete messo in collegamento Paco con uno dei momenti topici dell'anno, diciamo, della stagione. No, diciamo. Ragazzi, ma Paco ragazzi, versus Nicola da Padova, risentiremo più tardi tutto, certo, non ti preoccupare. Risentiremo tutto più tardi. No, anche tra l'altro sabato sono uscito con degli amici, abbiamo parlato un po' di questa sì. cosa. Beh, è importante parlare di questa cosa. Voi uscite a parlare di Paco contro Nicola. Già il fatto che voi avete parlato. Già il fatto che avete parlato di questo epico scontro tra Paco Spada di Fuoco Nero senegalese e il razzista dichiarato Nicola, credo che chiamasse non so da dove, non credo da Bari, Nicola, no? Sì, da Bari, anzi, Nicola da Bari, un classico. E beh, già il fatto che parlate di questo mi dimostra che creare indirettamente, creare involontariamente, no, quello, ragazzi, che Parenzo ha chiamato una un grande format sull'immigrazione, diciamo. Incredibile, no? Non esatto, si poteva esatto. sentire una cosa del genere. Ma non si vedeva, intanto l'hai sentito, non solo l'hai sentito, ma ne hai anche parlato successivamente. Chiamando. Ma veramente era un pollaio, era una roba tremenda, non si poteva proprio. Ma quale pollaio? Era un focus immigrazione. Era focus immigrazione. Focus immigrazione. Vabbè, Antonio, ma io poi mi meraviglio, cazzo, di Parenzo, no? Uno come Parenzo sì. che va in queste trasmissioni sulla 7. Sì, persona... ma che c'entra? Scusa, quello ci vado pure io. Una persona per bene, no? Ho capito, ma riesce allo stesso tempo a essere complice di un programma del genere, di uno scontro verbale complice, del genere, e poi complice, andare in televisione. No, ma infatti... Va bene, Antonio, vai a fare in culo. Lorenzo da Milano, dai. Ma perché? Lorenzo, vabbè, rotto le scale, tre minuti a parlare del nulla, dai. Cruciani! Qua bisogna essere incazzati, perché qua siamo in uno stato di polizia, perché non chi possiamo questo, pensare professore? Che Lorenzo, questo, Lorenzo. Chi è questo professore? Ah, Lorenzo, genitore, professor questo Lorenzo, genitore d'accordo. Che sta parlando di una cosa gravissima venga taciuto dalle forze dell'ordine. Che cosa ha detto di male? Portato via come se fosse un delinquente. Ma qua non siamo in democrazia. Siamo in uno stato di polizia. Di polizia e tu devi, sì. devi aiutarci, devi essere una persona che fa parlare gente come me che odia queste... Cioè non ho capito, che cosa dici tu? Che il padre di quel ragazzo lì, che ha accusato lo Stato, la strage di Stato, sì, i politici sì, che non devono fare la passerella, eccetera, eccetera? È stato fatto tacere e l'hanno portato via, ma stiamo scherzando. Ha detto quello che si sentiva in modo sufficientemente... Beh, non mi pare, che non abbia potuto dire le cose che doveva... Ma se l'ha portato via. Ma ho capito, ma aveva già detto, dai, nell'ordine, ho capito. Uno Stato democratico. Accettabile che ci sia della polizia che ragazzi, devi parlare meglio però amico mio, devi parlare meglio, se no non ti sentiamo, dai Lorenzo, avvicina sto parlando come posso, ma il segnale è quello che è. Beh, dire, allora non ho capito, quindi voglio dire, tu Cruciani, che credo ami la democrazia, non puoi permettere che ma ci che siano devo fare? Persone devo sparare... pagate dallo Stato, no, devi fare in modo che il popolo che la pensa in questo modo abbia risalto all'interno della tua rubrica. No, senti, io faccio quello che mi pare, non sei tu a dirmi quello che devo fare, chi deve parlare e chi non deve parlare. Fa quel cazzo che vuoi, allora. Io ho fatto parlare, ho mandato in onda quello che ha detto questo tizio, che si chiama Alessio Feniello, del padre di una delle persone ancora disperse, non voglio dire morte assolutamente, una delle persone disperse. È inaccettabile che non lo facciano finire. Vabbè, ho capito, a un certo punto l'hanno portato via perché c'era troppo casino, no? Che cazzo, l'ha portato via. Fermo lì, fermo. Fermo. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Arrivo amore, arrivo, sono un po' in ritardo. Non è vero, sto andando piano in tangenziale per sentire la zanzara. Buongiorno, Radio Maria? Sì, buongiorno, senta, volevo sbattezzarmi. Ah, scusi, devo andare alla zanzara? Ah, ok, vabbè, saluti. le palle piene. Questo è sempre il numero uno. Sì, mi pare che il regista di questa settimana, nostro della Zanzara, metta più l'attenzione su alcune, no, alcune frasi, alcune situazioni. No, per carità, io... Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Eccolo. Questo sembra monotematico anche. Lo so, è lui che decide, no, questo no, pazzo qua. Vabbè ragazzi, ma è un precario lui o no che precario, perché dovrebbe essere allora precario? Chi gli frega? No, pensavo fosse a tempo determinato. Ma perché, che c'entra adesso? Ottimo, continui così allora, benissimo, è assunto, chi se ne frega. Allora, dai, combatti. Allora, il mitico Locascio. Il mitico Antonio Locascio. Ma no, Locascio, dai, Locascio. Ma perché, scusa? Sempre sti personaggi. Perché non parliamo di questa cosa qui che ha scritto Pane Bianco sul cambiare i trattati europei? Bianco. Allora, Locascio, però, amico mio Locascio, devo dirti una cosa. Tu hai fatto un'intemerata contro le Marche all'Isola dei Famosi e sei d'accordo con Parenzo su questo qua. E dimenticandoti una piccola cosa, però, che ormai la questione non esiste più. Dovresti un minimo informarti. Però sentiamo. Una madre e una figlia che hanno mandato sul lastrico centinaia di persone anziane, centinaia di donne, truffandole, facendogli credere chissà cosa, portandogli via i soldi, sono state degli avanzi di galera, sono state in carcere per anni, escono e sono famose, vanno a fare le VIP, eh? Io penso che se in questa Italia di merda che siamo noi, se ci fosse stato Hitler in Italia, in questo periodo, gli avrebbero dato un Nobel per la pace, eh? Sì, però, caro Locascio, c'è un piccolo dettaglio. Non ci sono più all'Isola dei Famosi le signore Marchi, capito? Cioè, volevo segnalarti questo, Locascio, capito? Vabbè. Alberto da Padova, dai Alberto. Buonasera. Dimmi. Ah, io volevo spezzare una lancia a favore dell'ottimo Don Roberto Cavazzana, che tra tutti i preti che ho conosciuto, devo dire... Ma quale? Quello di Carbonara? Esattamente. Cioè, quello che sarebbe il compare di Don Contin nelle orge, diciamo. L'ottimo, no? Compare. L'ottimo compare delle orge. In che senso vuoi spezzare? L'hai conosciuto? Frequentavi la parrocchia? Sì. Io sono di Abano, non di Carbonara, quindi ero più piccolo quando c'era, però effettivamente non ho mai visto tutta quell'affluenza in parrocchia. Sì, cioè, però questo dimostra, siccome ci sono un sacco di persone, cosa dimostra? No, dimostra una cosa molto semplice, che si può essere dei bravi preti. Cioè, uno può essere un bravo prete e poi trombare come un dannato. Beh, no, ma secondo me è meglio. Ma no, ma infatti, questo è il punto. Ma cosa dite? Quelli che oggi hanno fatto hanno cominciato a fare una raccolta di firme a favore di questo prete di Carbonara, che sarebbe il compare di Don Contin nelle famose orge, ma non ci sono solo orge, ci sono un sacco di cose, quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Dovrebbero arrivare ad una conclusione. Cioè, loro dicono: lo sai che ci sono migliaia di persone che hanno firmato, migliaia, centinaia, credo, di persone che hanno firmato una specie di richiesta alla Chiesa di far tornare in parrocchia Don Roberto. Sì, certo. Vabbè. Ma va benissimo, per carità, però la conseguenza di questa roba è che queste persone qua dovrebbero ammettere che i preti possono tranquillamente trombare. Ma non è così per la dottrina della Chiesa, capito, ragazzi. Ma questo miei, stai ma dicendo non... un'ovvietà. Alberto, Alberto, che è un parrocchiano, un ex parrocchiano. Sono assolutamente d'accordo con... Ed è anche, credo, credente, cattolico, ragazzi, se non sbaglio. Ma la discussione non può avvenire così, non dipende da voi, non lo decidete voi. Ma no, E allora che dite? Ma quello... Ma sai che non lo sapevo. Ma allora che cosa vuol dire fare una Sto battaglia? Sto dicendo che se preti... uno fa, se ci sono delle persone, dei parrocchiani, delle persone credenti, ma no, quelli che sono degli ipocriti. Che fanno una raccolta di firme per far tornare oggi in parrocchia questo che è sparito in pratica, questo Don Roberto. Questi dovrebbero dire: a noi non ce ne frega niente di quello che succede in sacrestia, di quello che succede. Ma non lo diranno mai. Ho capito, però quella. Allora sono ipocriti. E ho appena detto: sono degli ipocriti. Alberto, perché fanno finta di non aver... Al di là di ogni ipocrisia, che effettivamente può verificarsi, insomma. Appunto. Però personalmente, massima solidarietà a Don Roberto. Ma che vuol dire solidarietà? Scusami, in questo caso se trombava pure tua madre, magari. Beh, cioè, adesso, non lo sapevi. Ma no, per dire, cioè, tanto gliel'hai detto, è una battuta. Siccome questi qua facevano le orge, probabilmente, che ne so, ma è chiaramente una battuta. Ho detto, non lo sai, magari è incappata pure tua madre, per dire, no? Cioè, è chiaro che non è dubbio, poveretto. Ma non gli viene nessun dubbio, tua madre, ma lasciamela dire tra i denti. Dimmi, meglio mia madre che me, nel senso, ecco. Come cioè, meglio etero che gay, scusa, non ho capito perché, scusa. No. Cioè, meglio il prete piccolo, etero che il prete gay. Ero piccolo quando era. Ho capito, sì, in quel senso. Sì, scusa, cioè dici meglio trombatore che pedofilo, dici ti. Meglio il prete che tromba che il prete pedofilo. Vabbè, quella può essere una tesi. Assolutamente. Assolutamente. Sì, d'accordo, però dovete arrivare alla conclusione. Mi rivolgo a quelli che hanno fatto la raccolta di firme per Don Roberto. Le grandi battaglie di Cruciani. No, ma non è grande battaglia di Cruciani. Scusami, abbi pazienza. C'è una raccolta di firme. Rivolgiamo Don Roberto, sì. Pronta una raccolta di firme. Cioè, la conclusione di questa raccolta di firme è: a noi non importa che Don Roberto sia un grande trombatore che faccia le orge insieme a Don Contin. Importante è che torni perché è bravo. Cioè, questo è il punto. Abbiamo perdonato Don Roberto, lo rivogliamo con noi. Sì, bravi. Allora dovete dire: noi vogliamo che i preti possano tranquillamente avere famiglia, avere una compagna, fare sesso, eccetera, eccetera. Nicoletta da Roma, dai, Nicoletta. Dai, pronto? Avanti. Nicoletta, dimmi cara. Dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi tesoro. Senti, io volevo commentare, c'è un po' di rimbombo però. No, io sento benissimo, hai una bella voce, molto suadente, molto sexy, molto eccitante. Non so se lo dirai anche fra poco. Volevo commentare, non tanto quello che è stato detto dalle persone che hanno chiamato. E da chi? Bensì quello che hai detto te su che quel papà che parlava del papà del figlio che sta ancora sotto la neve, sotto le macerie. Ho detto che secondo me è un po' così, è un po' sparare a casaccio, cioè dire che è la stessa cosa, che siccome lo Stato riesce a salvare i profughi dovrebbe riuscire a salvare le persone travolte da una valanga, sono due cose un po' diverse. No, però ma va bene, io non voglio entrare nel merito di quello che ha detto. Quello che mi sembra sconvolgente è che tu ti metti a criticare, cioè, una persona che magari dice giustamente delle cose che non sono corrette, non sono vere, però è presa insomma da un dolore. Senti, fortissimo. Nicoletta, se uno fa una dichiarazione pubblica davanti alle telecamere, davanti ai microfoni, poi ognuno di noi ha il diritto di giudicare. A prescindere dai ruoli di questa persona. Questo è il padre di una persona dispersa, sta passando sicuramente momenti di grandissimo dolore e va benissimo, nessuno vuole infierire, nessuno vuole dire testa di cazzo, che cosa dici, eccetera, eccetera. Non c'è un tono di polemica che utilizziamo di solito in maniera anche forte e vigorosa, assolutamente. Mi permetto di dire che paragonare il salvataggio dei profughi in mare con quello delle persone travolte da una valanga all'hotel Rigopiano mi sembra... Se vuoi ti dico pure qualcosa in più. Ma mi sembra leggermente inappropriato. Punto, basta. Ma quello che io trovo inappropriato. Vabbè, allora non si può dire, No, lo puoi dire. Ma lo trovo inappropriato commentare. Cioè, nel senso non si deve commentare, quello l'ha fatto apposta per commentare, perché il suo pensiero sia conosciuto. L'hanno portato via pure la polizia a un certo punto perché stava attaccando il governo. Noi ne parliamo, No, assolutamente. Io non ripeto, io contesto, non dico che non contesti niente, non giusta. Sai che cosa contestare, questo è il punto. Non sai quello cosa contestare. Che contesto è che cosa? Tu ti metti e entrare nel merito. Ma di nel merito, ma certo, ma per forza devo entrare nel merito. Che ma faccio? È chiaro che non, scusami, è chiaro non che sai che dire. Sconvolto. Salvatore da Napoli, ciao. Salvatore da Napoli. Eccomi qua. Volevo Nicoletti mi ha anticipato. Volevo dire che il commento di questo papà di Stefano che sta vivendo una tragedia chiaramente immane. Andava, hai fatto bene a farlo sentire, per ascoltare per radio, però andava non commentato, punto, andava. Senti, amico mio, ma se mi devi dire quello che devo fare, caschi no, male. Ma cosa vuol dire? Pezzo di merda, io non devo dire a te quello che devi fare. Però, come hai detto, scusa, dire, non ho capito. Come hai detto? Pezzo di merda. Ah, così, all'improvviso. A freddo, così, pezzo di merda. Sì. Perché tu sei il solito stronzo che fa sempre questo. Sto dicendo che... Senti, hai fatto Salvatore, bene, la realtà è che tu sei un poveraccio, capito? Questo è il punto. Cioè, la realtà è che tu sei un poveraccio, questo è chiaro. Perché uno che dice così, pezzo di merda, sei un poveraccio, è evidente che sei un poveraccio. È chiaro. Però è accertato che sei un poveraccio. Accertato che sei un poveraccio. Vabbè, bravo. Però ammettilo, Salvatore, sono un poveraccio, No, non sei un poveraccio, non lo vuoi ammettere. Vabbè, allora? Ti sto dicendo che hai fatto bene a far ascoltare il commento di papà. Sì, professore. Sì, padrone. Siccome sta vivendo una tragedia immane. Sì, padrone. Sì, padrone. Sì, padrone. Poi? Va a fare in culo, stronzo. Sì. caro Parenzo, abbiamo saputo delle cose importanti durante il weekend. Sì. Ho letto soprattutto insomma, del caso scoppiato in questa trasmissione della professoressa Silvana De Mari, con cui ho avuto un colloquio telefonico. Pure. Sai come quelli che avvengono, i colloqui telefonici tra Putin e Trump, no? Sì, posso immaginare, è uguale. Un vertice, una specie di vertice. Era a cena in un posto con Sgarbone alla presentazione di un libro. E che ci faceva? Nella serata di ieri ho visto 6 telefonate di Sgarbi a un certo punto. E ho detto: che è successo, Vittorino? Ho richiamato, ho fatto: ti passo la professoressa De Mari. Parlo con la professoressa De Mari, la ringrazio del fatto di aver appoggiato questa battaglia di libertà perché mi vogliono cacciare all'ordine dei medici. Come sapete, la professoressa De Mari sostiene delle cose sul mondo omosessuale, i gay, la pericolosità del sesso anale. Dice anche che i gay non si possono criticare, che sono una nuova razza ariana. Proviamo a richiamarla perché sembra non solo che la vogliono cacciare all'ordine dei medici, tutte le associazioni gay e anche l'ordine dei medici si è mosso, ma pare che la stessa De Mari, seguiamo passo dopo passo l'evolversi della situazione, voglia rinunciare a fare il medico. Sì, pronto? Dottoressa, sono Cruciani. Di nuovo? Dovreste pagarmi. No, sì, no. Adesso no, io sono d'accordo perché va a pagare. Sono Parenzo, signora, buonasera, dottoressa. Ah, certo. Credo che sia giusto metterla a bordero della trasmissione. Sì, dunque, io secondo i contatti... No, dottoressa, sì, voglio chiederti solo una cosa. Io sono pronto a devolvere il 50% dello stipendio di Cruciani, il 50% metto in palio, per averla a bordero della trasmissione. Cioè la metà a bordero. Però aspetta, no, ai secondi contati. Dottoressa, sì, De Mari, lei ha visto, la vogliono cacciare dall'ordine dei medici del Piemonte. Come risponde a questa roba? Rispondo che 2 più 2 fa 4 e l'erba è verde. E come diceva Chesterton, ci arriverà il momento in cui dovremo combattere e morire per affermare che 2 più 2 fa 4 e l'erba è verde. Dunque, in nome di San Tommaso e sotto la protezione di San Michele Arcangelo, affermo la verità, che i bambini nascono dalla vagina delle donne, non dalla cavità anale degli uomini. E quindi è la vagina delle donne un posto dove in teoria dovrebbe andare insieme. Poi uno lo mette da un'altra parte, da un'altra parte, sta attuando la sua libertà. Sì. Ma rischia di fare la bua. E io ho il dovere di dirlo come medico. Certo. Lei dice anche altre cose, non è che dice solo questo, No, no, io dico solo questo. Questo è il punto fondamentale. Io dico, sto dicendo solamente questo. E dico anche che il punto fondamentale è la libertà di parola. Ah, questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Saltando. La libertà di parola noi l'abbiamo avuta gratis, ma è stata pagata lacrime e sangue. E quelle non erano effetti speciali. Negli Stati Uniti, chi si è dichiarato contrario ai matrimoni gay è stato licenziato. In Italia, a Ferrara, è arrivato adesso un comunicato della ASL, ai medici è vietato pronunciare la frase che i bambini devono avere un papà e una mamma. Per la libertà di parola ci si batte fino alla morte. Cioè lei sta dicendo che c'è un nuovo fascismo in Italia che sta dilagando? Cioè c'è un Ancora, all'estero è peggio, che dilagherà se passa il DDL Scalfarotto. Non solo, ma è passato anche un concetto folle che noi dobbiamo fare attenzione a non offendere le persone. Non essere offesi non è un diritto umano. Lei non ha la più pallida idea di tutto quello che mi hanno scritto nelle ultime settimane. Che cosa le hanno scritto? Dunque, il 90% sono le solite robe. Io spero di vederti squartata al TG1, hai le ragnatele sulla vagina, eccetera, eccetera. Ah no, una mi ha scritto una roba carina, nel senso che divertente, non che sia carina. Tuo marito deve averti lasciato con un uomo, per un uomo. Dai, questa è la carina. Comunque, lasciamo perdere. No, io voglio capire una cosa. Lei hanno già avviato un procedimento di espulsione? Lo chiede all'ordine. Ma lei ha detto che se ne vuole andare da sola da questo ordine dei medici? È una cosa a cui sto pensando. Non male. Ci sto meditando su. Ma come fa poi a fare il medico? Ma in Vaticano. Io ho 63 anni, basta. Ah, dice abbandonare direttamente. Oh. Cioè sta pensando di non fare più il medico? Sto pensando di non fare più il medico. Ma vada in Vaticano a farlo, il posto per lei è perfetto in Vaticano. È uno stato. Temo di no. E perché no? Perdere il Vaticano. Torniamo. Ci saranno anche lì delle vagine da sistemare. No, ma la libertà di parola di sopra di tutto, se passa il DDL Scalfarotto, tutti quanti passeremmo la vita con il cappello in mano, gli occhi bassi, a chiedere cosa possiamo dire e cosa non quello possiamo dire. Quello sul reato di omofobia. Conto a insultare. Un cervello normale di essere insultato, non gliene frega niente. Ma se uno si sente offeso, tutti gli insulti che dicevo, non me ne frega assolutamente niente. Ma ho capito, lei sbaglia. Se uno si sente offeso per una sua battuta omofoba, ha diritto di andare in tribunale, secondo me. Poi... se uno si offende, vuol dire che lui ha una struttura che dipende dal giudizio altrui. Scusi, signora mia. E quindi una struttura psicologica molto fragile. Però se lei mi dice, Parenzo è il solito ebreo... Scusi, dottoressa, per carità. Se lei mi dice... Posso un attimo, c'è un secondo? Vada. Se lei mi dice, ecco, Parenzo è il solito ebreo, io francamente mi offendo. Non è che mi offendo... Scusi, al mio amico Emanuele Segremar, vice direttore della comunità ebraica di Torino. Ma non è questo tutti i giorni, siccome lui è fiero di essere ebreo. Ma non mi interessa. Se lei lo dice con tono dispregiativo, come dire che gli omosessuali sono malati, l'omosessuale si incazza e secondo me ha ragione che lei dica tesoro, vaginella, sederino, pisellino. Dunque il fatto ma scusi, a me cosa, qual è il problema? Il problema è che se lei ha offeso la comunità omosessuale, fa benissimo a portarla in tribunale. Cioè in democrazia funziona così. In democrazia non funziona così. No, in democrazia può dire... quello che conta è il vero e il falso. Il vero è che l'erotismo anale, che si è fatto anche da su una donna, non parlo solo di gay, fa un male porco. Mi spiace. Ma se lo fa, ma lei cosa gliene frega? Lei dice anche un'altra cosa. Lei dice anche un'altra cosa, che ha curato per un sacco di anni. Appunto. Dei gay. Mi è capitato di curarne. Ma cosa vuol dire curare un gay? Ma che roba è? Questo che veramente è folle. Se lo spiego, Mi dica. Vuol dire che io ho visto, ho curato le loro lesioni anorettali. Io sono stata anche in Etiopia. Lei sa cos'è l'Etiopia? Beh sì, certo. Penso di sì, penso di saperlo. Nel 1986 c'era un dittatore che si chiamava Mengistu. Che c'entra? Sì, sì, e certo. Quindi c'erano i sovietici e i cubani. Ma cosa c'entra questo con l'omosessualità? Per gli omosessuali, i gay, come vi pare, dell'esercito cubano, quello che Haiti è stato per gli omosessuali, i gay, come vi pare, della California. Il posto dove si prendeva il ragazzino di 12 anni dopo averlo comprato per $2 e lo si lasciava con l'incontinenza fecale e con i condomi e l'AIDS, di cui sarebbe morto. Ma cosa io ho visto quello. Ma cosa c'entra questo? Ma che c'entra, per Dio, questo con l'omosessualità? Ma che c'entra? Ma guarda, questo è incredibile. Cioè, cosa c'entra? Ma scusi, poi lei dice un'altra cosa. Dice che fa un accostamento tra pedofilia e gay. Perché, scusi? Perché il movimento LGBT, quando nasce, controlli solo su Wikipedia, si chiama LGBT PNZ. Era il suo nome originario. Signori, non conoscete la storia del movimento LGBT? Sì, ma ho capito, ma secondo lei i gay sono anche pedofili? È più possibile che siano pedofili? C'è più probabile che sia pedofilo? Lo chiede al movimento LGBT? No, lo chiedo a lei, che dice che studia queste cose. Dice, secondo lei... Allora, secondo lei, se ai LGBT la pedofilia gli desse così fastidio, perché il circolo LGBT di Roma è intitolato un inneggiatore della pedofilia, della necrofilia e della coprofagia, Mario Mieli? Che cazzo lo dice Mario Mieli, bambino? E si mangiava. Ho capito, ma allora secondo lei i gay sono anche pedofili? Questo è il punto, è più probabile che siano pedofili? Se non lo sono, perché il circolo Mieli non trova ripugnante essere intitolato a Mieli? Perché non si intitola a Oscar Wilde o a Turing? Ma perché Mieli? Ma che le ha fatto? Non ho capito. No, lei dice che Mieli ha detto in passato alcune cose sull'amore dei bambini. Ha detto, li ha scritte. Ma mica questo vuol dire che era che era pedofilo, però. No, ma... guardi. Perché lei dice che i gay è la nuova razza ariana? Perché quelli di cui non puoi parlare male, quelli sono i padroni. Io ho parlato male di questi qua, secondo loro, e ho una cosa dell'ordine, secondo lei. Arrivederci carissimi, come sempre è stato un piacere. No, ma l'Islam, una cosa sull'Islam, dottoressa De Mari. Butta sempre giù il telefono a un certo punto, butta sempre giù. Sempre. Comunque pare che non voglia più fare il medico, non voglio più fare il medico, 63 anni, mi sono rotti i coglioni. Eccetera. Vabbè, ce ne faremo tutti quanti, le ultime sull'ispezione anale della dottoressa De Mari. Comunque ragazzi, diciamo la verità, alle 19.54 lo possiamo dire tranquillamente, Parenzo. A me non mi pare che... Siccome è pieno di gente che prende e dà, no? In quel posto. Adesso lo dico proprio veramente in maniera metaforica, lo dico, senza proprio senza dirlo direttamente, è pieno di gente. Non mi pare che ci sia, come dire, no, un fenomeno di corsa in massa verso gli ospedali. Ed è pieno di gente in Italia e nel mondo che lo prende in quel posto e che lo dà in quel posto. Adesso detto, non mi sembra che ci sia una corsa, no, al dottore per i problemi anali. No. Credo, no, credo. No. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. E che cos'è? La zanzara. I'm a man. Sono in servizio. Sì, sono in divisa. Vado in giro in ospedale con il cellulare in mano e ascolto la zanzara e non me ne frega un cazzo. La marina che mandano a salvare i migranti costa, costa, quei soldi spendeteli per i terremotati e i migranti, amen, amen, più lo cascio, meno Parenzo. Giovanni da Piacenza, vai! Scusami, scusami se c'è il viva voce, ma c'è il Bluetooth che entra in automatico. Il Bluetooth entra in automatico. Giovanni, dai, forza. Ho capito, dai. Entra in automatico. No, ma la devi togliere, lo devi togliere. Non riesco, non riesco. Ma che c'hai? La centralina nucleare? Che c'hai? In macchina. Vabbè, ho capito, Giovanni, se facessero tutti come te staremmo freschi, per cui prendi questo diavolo di telefono, stacca tutto, spegni tutto e prendilo in mano, vai a sbattere contro in galleria, prendi una curva a 150 all'ora, fai quello che vuoi, non ci interessa, okay. Dai. Ci saluto, ci sentiamo dai, un'altra volta. Giovanni, dimmi, forza. No, volevo esprimere la mia solidarietà al padre di quello che è rimasto sotto e gridare un grande vaffanculo a quegli ipocriti che lo criticano, perché forse qualche poca attenzione all'intervento è stato fatto, perché i mezzi sono per portare lì con un elicottero, una turbina. È arrivato lui col Bluetooth, col telefono, che si vuole mettere al posto di quelli che sono andati a salvare quei 30 lì. No, non mi metto al posto di nessuno, mi metto al posto mio. Ma non dire cazzate, cose dai. Si sta discutendo, Giovanni, di piccoli ritardi e quel cazzo di telefono che c'ha Giovanni. Allora, il problema fondamentale è un altro. Si sta discutendo di qualche ritardo, balla un'ora, pare un'ora e mezza, due, da alcune comunicazioni, qualche malinteso sulle comunicazioni, quella della Protezione Civile che ha detto no, ma è una bufala questa qua, e c'è addirittura però una mail del direttore dell'albergo o una telefonata del direttore dell'albergo che invece diceva no, è tutto a posto. Si sta ragionando su un'ora e mezza, due di differenza, questo è il punto fondamentale, Giovanni, o no? A notte profonda. Ma che vuol dire a notte profonda? Che stavi dicendo? Cioè, i primi soccorritori sono arrivati sugli sci a piedi. Allora? Certo, questo è vero, certo. Quelle quattro persone che sono arrivate stanche come dei somari, che cazzo potevamo pretendere che facessero? Mentre se si prendeva un bel Chainook, sai quello che è arrivato col Chainook, è arrivato il nuovo Bertolaso, è arrivato, è il Marine, è arrivato il Marine. Ma anche lei, appunto, no, il nuovo Marine. Il Chainook è arrivato, dai. Avete sempre ragione. Ma non ho sempre ragione. Ma che sei? Lui ha ragione sul fatto che queste polemiche sono vere e hanno anche probabilmente una sostanza. Perché voglio dire, sul fatto che quell'albergo fosse isolato, sul fatto che i primi soccorsi sono arrivati tardissimo, sul fatto che non c'era gli sparaneve, sul fatto che quella nevicata era molto attesa, cioè su tante cose, evidentemente ha ragione che c'è stato un problema. Poi no? Che pigliamo il Chainook, poi che prendiamo, che facciamo? Con la musica sotto delle cose, della cavalcata. Cavalcata delle Valchirie, no, che cos'è? No, che facciamo? La musica sotto? Le cavalcate delle Valchirie erano altri. La prossima volta ci resta tua figlia e siamo tutti più contenti. È arrivato il cretino, che cazzo vuol dire? È arrivato il cretino. Sì, è arrivato il cretino. Prendiamo il Chainook e poi che prendiamo dopo il Chainook? No, prendiamo il coso? Che prendiamo? No, prendiamo la tua macchina. Che prendiamo poi? Che prendiamo dopo il Chainook? No, Che c'è? Il coso? No, il, prendiamo, lo stealth? Che prendiamo? Lo stealth? I caccia? Che prendiamo? Ah, dai, su. Ma chissà perché sempre queste battute di merda. Che prendiamo? I caccia torpedinieri? No, che prendiamo? No, prendevamo un bel dragamine, perché così sopra la montagna troviamo meglio col dragamine. Ma che cazzo? Cioè, dai, è proprio vero che stai ma ragazzi, ma avete visto che condizioni c'erano o no? Le condizioni che c'erano, sì, l'hai visto o no? Le stesse c'erano. Il giorno dopo gli elicotteri volavano tranquillamente. Una volta che è stato chiarito, una volta che qualche qualcuno ritardo c'è stato, non penso che anche tu, Cruciani, non lo riconosca. Ma certo, che ci sia. C'è un'inchiesta, adesso vedremo. Dai. Giustifichiamo sempre tutti. Ma chi sta giustificando? Vabbè, niente, figurati. Se uno ha preso sotto gamba gli avvertimenti che ci sono stati, ha fatto malissimo e pagherà per questo, se è il caso che paghi. Nessuno dice ma non niente. Non paga nessuno in Italia, dai. Non paga nessuno in Italia. Sì, questo comunque, sì, è vero, questo è vero. Comunque gli strumenti, i mezzi per un intervento più rapido, lo spazzaneve è arrivato sul giorno dopo. Comunque ti dico solo questo, che il figlio della persona di cui abbiamo mandato in onda le frasi all'inizio della trasmissione, il giorno prima, credo parlando tramite WhatsApp o col padre o non mi ricordo con chi, ha detto sì, c'è una grande nevicata, ma il panorama è meraviglioso, stupendo, fantastico. Allora è un posto fantastico. Allora certo che ma non ho detto che è colpa sua, ho detto che qualcuno il giorno prima se n'era andato perché magari no, per una questione di prudenza. Perché c'erano tutte le condizioni per andarsene. Qualcuno ha un attimo sottovalutato, però non è colpa sua se è venuta giù la montagna ed è rimasto sotto. Cazzo. No, è un altro conto, però certo ci voleva il Chinook. Certo. È un altro conto, sono gli interventi. Certo, ci voleva il Chinook. Sicuramente il Chinook. Ci voleva il Chinook. Mi è piaciuto però. Il Chinook, mettiti un dito nel culo a vedere com'è bello. Così dopo continuiamo. Come è raffinato la trasmissione questo. Sui gay. Il Chinook. Se vuoi farmi una pompa. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra adesso? È impazzito. Adesso lo faccio impazzire questo Giovanni. Diamo il Chinook. Prendiamo le squadre speciali dell'esercito americano, i Marines, che ne so. Alberto dalla Spezia. Ciao Giovanni, sì, un po' di tempo fa, sì, è vero. Sì, 200.000 euro non me l'ha dati nessuno, però. Alberto, vai. Pronto, ciao. No, anticipo il discorso che voleva fare. Alberto, dimmi. Ciao, buonasera a tutti innanzitutto. Vai. Volevo fare un piccolo commento sulla dottoressa, che adesso non ricordo il nome. Fermo restando che si può essere d'accordo o meno sull'espressione di qualcuno, però rimango scioccato, basito, che tanti dottori messi insieme ritengono opportuno il fatto di doverla cancellare dall'ordine dei medici, che si preoccupassero di tante altre cose, non su un pensiero di una dottoressa, che di casini i medici ne hanno fatti, ne fanno e speriamo che ne faranno di meno in futuro. Poi per quanto riguarda i gay ho da dire una cosa. Dimmi. Ho tantissimi amici gay, a me non frega niente come uno decide di vivere la propria vita. Può viverla in bianco, in rosso, in nero, in verde, in arancione. Allora? Però è anche vero che tu non puoi permetterti di fare nessuna forma di commento verso i gay, che appena dici qualcosina che potrebbe essere sbagliato, perché se puoi sbagliare sei finito. Non è che sei finito. Uno deve sapere se offende. No, guardi che è completamente diverso il concetto. Uno si deve preoccupare. Ha un po' ragione, se però. Uno si deve preoccupare se sta offendendo la sensibilità. Se uno si sente offeso, va in tribunale. Chi se ne frega. Non è quello il punto. Il punto è che la dottoressa De Mari, io sono contrario a qualsiasi cosa dice la professoressa. Che è omofoba. Ma non è una questione di omofobia. Purtroppo ancora non c'è la legge. Ha la sua opinione volgare e fortemente discriminatoria nei confronti, è fortemente discriminatoria, ma non me ne frega nei niente. Confronti degli hai omosessuali. Il diritto di dirla senza per questo no, dover essere non cacciata. Ha il diritto di offendere e di insultare nessuno. Comunità, non esiste il reato contro la comunità. Esiste il reato contro le persone singole, non contro la comunità. Non c'è dubbio, ma essere omofobi è ancora non è creato. Perché ti fermi? Ti fermi alla banalità delle parole? Io questo mi stupisco. La banalità, ripeto, non è banale, è purtroppo quello che dovrebbe, ma è talmente banale che però non è legge. Cioè, tu stai dicendo che è una cosa. Ma Lecce o legge? No, Lecce. Ma chi se ne frega? Dimmi, Marco. Se ne fotte di te, Parenzo. Ma totalmente, adesso non lo so, però. Io volevo premettere che non vado a troie, non piscio nel lavandino. Vabbè, questo che c'entra, però. No, perché voglio vedere che scusa. Probabilmente mi chiuderà il telefono in poco tempo. Perché? Perché. Mi devi spiegare, Giuseppe, una cosa. Io ero uno dei tuoi assidui ascoltatori. Il podcast della Zanzara, prima cosa che facevo della mattina, prima del caffè. Ma noi che ce ne frega adesso questo? Se ne frega. Comunque, no, ma che ce ne frega adesso? Ero uno dei tuoi. Mi pare che sei ancora qui che chiami, per cui. No, ma è l'ultima volta. Adesso dirà, chiamo per l'ultima volta. Sì, certo. No, per l'ultima volta, magari fosse l'ultima volta, è una costante. Mi devi capire, devi spiegare che debito hai con Sgarbi. Nessun che debito. L'ho intervisti per 20 minuti, cazzi, non se ne frega un cazzo. A te non frega niente. Lo so, fai sempre così, Giuseppe. Fai sempre così. Ma che vuoi da me? Appena ti attaccano Sgarbi, ti toccano Sgarbi. L'ho attaccato io pure, anch'io mille volte, come sai bene. Ti toccano Sgarbi, scleri perché no, l'ho attaccato mille volte. Un talk televisivo che c'è sempre Sgarbi in mezzo a audience. Prenditela. E appena dice cazzo, figa, capra, a parte l'applauso, proprio degno per prenditela con chi fa i talk televisivi. La cosa più vergognosa anche con te, Parenzo, che fai tanto che ti indigni quando chiamano quei disperati, quei davvero miserabili che paragonano la Shoah con gli animali, vabbè, lasciamo perdere, però poi alzi il tono, fai quello indignato, giustamente, allora... però non ti vedevano. Poi l'altra, non so quale puntata fosse, c'era un pippone di 20 minuti che io poi post andavo sempre avanti e mi trovavo sempre Sgarbi, ogni 5 minuti Sgarbi, dopo 10 Sgarbi ancora. Ma c'hai una fissazione, un'ossessione? No, sì, perché non lo so. Hai un'ossessione? Chiama Sgarbi, faglielo dire. Hai fatto fare un pippone di 20 minuti a Sgarbi. Diglielo in faccia. Contro Saviano. Ma diglielo in faccia. Diglielo in faccia. Ma che cazzo me lo... No, io non faccio lo show, non parlo con lui, non me ne frotto un cazzo di lui. Diglielo in faccia. Parenzo, perché non ti sei indignato? Perché non hai fatto quello indignato che alza il tono quando ha detto che Saviano è un privilegiato? Ma diglielo in faccia. Parenzo, ora ce l'ho con Parenzo. Ma di cosa sta parlando? Perché no, tu no, giustamente alzi il tono quando paragonano la Shoah agli animali. Io dico quello che mi pare, certo. Voi non sapete che cazzo dire, quando diceva che Saviano era un privilegiato perché aveva la scorta, perché fai soldi, dice menzogne, perché non facevi l'indignato? Io gli ho detto assolutamente che non è così. La scorta serve. Ma lui avrò, dice, ma chi avrò il diritto di criticare le persone come mi pare? Sì, o me lo sì, deve dire lei che non mi è neanche parente? Ma non ho capito. Perché hai questa ossessione con Sgarbi? Io quando c'è Sgarbi non ce ne frega un cazzo, è uno che non ha mai, si vende per nulla. Non ha mai nulla. Tu guardi prima, tu senti un suo parere ed ha un'opinione. Poi la volta dopo, solo perché gli conviene di più, ha un parere completamente opposto. Non è mai cioè un voltagabbana, dici tu? Assolutamente. Cioè io Sgarbi, allora tu hai detto un venduto, voltagabbana. No, non mi mettere in bocca con venduto. Non è che sei il Papa, non è che la dichiarazione di Marco da Lecce. Lo so, non sono un cazzo di nessuno, però è una persona anche simpatica, forse nel privato. No, davanti però a una anche birra. Simpatica, però io non forse, ho capito quei pipponi che li fate fare sempre. Non ho capito. Ma perché sei ossessionato da Sgarbi? Forse è il caso di chiamarlo. Lo chiamano in TV perché fa. Ma che te ne frega te? Ma che te ne porta a te? Spegni il televisore se non lo vuoi vedere. Non ce la fai. Sei drogato di Sgarbi. Non hai capito un cazzo. Vorresti essere Sgarbi. Sì, vorresti essere Sgarbi. Giro canale, è una persona davvero che non vorresti essere Sgarbi, questa è la realtà. Lo fa audience. Questo è da discutere se fa audience o no. Comunque. pause, perché sanno che tu chiami Sgarbi e lui ogni volta che è invitato deve fare il suo show. E così c'è audience. Perfetto, perfetto così, contento. Il sei ossessionato da Sgarbi, sei ossessionato, sei ossessionato. Fa il vostro gioco, lo so che vi aiuta. Sei ossessionato da Sgarbi. La mattina non sa come cazzo fare audience, chiama Sgarbi, l'audience lo fai, ma io lo capisco. Però poi non ti capisco, non ti sorprendere. Ma cos'è che non sopporti di Sgarbi? Non riesco a capire. Cos'è? Non è mai obiettivo nelle... Ma che cos'è che ti dà fastidio di Sgarbi? Sei ossessionato, sai che c'hai? No, no, fammelo dire, fammelo dire. Non lo dici, non lo dici. Un cazzo di difetti, però io riesco pure a scindere. Quando uno mi sta sul cazzo, però riesco anche a dire, ok, mi sta sul cazzo, però ha detto una cosa ma giusta. Ma perché ti sta sul cazzo? Mi non ho capito. Vabbè, una cosa personale. Che t'ha fatto? T'ha scopato la fidanzata? Che t'ha fatto? Potevo anche essere una persona che stimavo prima, intelligente, perché... E invece che c'ha adesso? Apprezzabile avere lui... Potrebbe essere apprezzabile avere lui in TV rispetto vabbè, ma a molti allora, altri. Allora? Perché è una persona che non è coerente. Quando tu sei ma che vuol dire non è coerente? Dici sempre... Te lo spiego. Quando tu c'è uno stesso fatto che riguarda A e riguarda vabbè, non sai che dire, dai, non sai no, che dire. Dire ma non dire. Sai che dire, c'hai già rotto le scatole, c'hai già annoiato, dai, su. Ma quale c'hai già annoiato? Non sai che cazzo dire, Giuseppe? Vabbè, Vittorio, vabbè. Digli qualcosa tu, dai, Vittorio. So. Vittorio. Sì? Cioè, non so, pare che dica delle cose intelligenti, non sono preoccupato. Certo. Probabilmente penserà di te quello che pensa anche di me, nel senso che non abbiamo posizioni. Io non ho intenzione di fare lo show con Sgarbi, voglio dirgli anche in faccia, se possibile con educazione, che dico: Sgarbi è una persona che stimavo, però molte volte negli anni ho compreso ho visto. Ma che fai, il democristiano adesso? Fammelo dire, perché molte volte lei non valuta Sgarbi nello stesso modo fatti riguardanti magari uno schieramento politico o un altro, uno stesso fatto. Ma non sai che dire, non sai dire niente. Questo non sai che dire, toglietelo dalle palle, hai rotto i coglioni, non so che dire, va bene, non so che dire. Ma non signori. Sai che dire, ti sei così adesso emozionato, no, sei lì, non sai emozionato, che dire. Cioè, prima gli hai detto di tutti i colori, adesso cioè, sei muto. Gli ho detto questo, perché è la persona che fa in questo modo, quando tu senti un parere di Sgarbi devi stare attento, non è mai obiettivo nelle cose che ma dice. Che vuol non dire? Beh, non sai che dire, Marco! No, quando deve bastonare il suo avversario lo bastona, a prescindere che abbia fatto una cosa giusta o sbagliata. Ma giusta secondo chi? Vabbè, Vittorio, non ne posso più, risponditi a questo. A parte che sono pieno di posizioni esattamente opposte, persone che un tempo non erano d'accordo con me, e con il tempo invece si sono convinte della coerenza o dell'interesse delle cose che dico. Poi sui singoli casi occorrerebbe essere precisi. Esatto, perché, altrimenti uno di che parliamo? Se uno dice la posizione che hai assunto non va bene, mi deve dire su che cosa. Per il resto può dire quello che vuole, nel senso che non cercherò certo di convincerlo che devo avere ragione per forza. Dico che io uso la ragione, molto spesso altri non la usano, per cui in molte circostanze dico cose che fanno riflettere, ma non so, gli ultimi episodi riguardano il volo riguardano sì. Forchielli. Riguardano il caso Saviano di... andiamo su Saviano Sgarbi, perché uno è privilegiato ad avere la scorta? Perché deve dire che nessuno lo vuole uccidere? Cioè, ora non diciamo puttanate, ma perché diciamo che cazzate? Perché uno deve dire avere due attici, qual è il torto di avere due attici? Come diceva qualcuno che conta più di me, non me ne frega un cazzo se uno parlando, denunciando, diventa più ricco, più famoso, tromba di più, scopa di più, ha quattro attici, a me interessa solo se quello dice è vero o dà fastidio. E considerando la macchina del fango in cui sottoposto, io direi che quello che dice è dà molto fastidio. Ti piacerà Saviano, a me Saviano fa orrore, ritengo che sia dannoso per Napoli e che lui faccia una campagna solo a suo favore, e l'ho sempre detto dal primo giorno, quindi la mia coerenza non c'è assoluta. Incoerenza posso questo. Dire di più che se tu vai a studiare non le mie dichiarazioni ma il capo della squadra mobile di Napoli, Vittorio Pisani, che era stato detto. Un grande poliziotto, è stato allontanato da Napoli perché si è permesso di dire che Saviano non aveva bisogno della scorta, bensì i poliziotti e i carabinieri sono sottoposti alla violenza vera. Io condivido la posizione di vedi, lei allora per lei Saviano può girare libero per strada. Per lei Saviano può andare a fare la spesa nel negozio sotto casa. Per me può girare libero per strada e sottoposto alle stesse misure di Grasso, della Boldrini, di Mattarella. Evidentemente anche loro saranno in pericolo. Se non muori, quello che muore di sicuro. Non preoccuparti, non muore di sicuro. Nessuno ha interesse ad ucciderlo. Ora non voglio esagerare, però pure a Falcone dicevano che se l'era messa solo la bomba, la Daura, Sgarbi, pure a Falcone. È morta la sua scorta, anche questa è la cosa grave. Se per colpire Saviano vuoi la sua scorta, ma di cosa ti agiti? Cosa se ne frega te? Io la mia posizione è questa e ne sono fermamente convinto. Nessuno ti farà nulla, come a nessun giornalista che abbia detto le stesse cose, perché non è il primo che lui addirittura copiate. Impastato, hanno simulato un attacco suicida. Vabbè, ho capito, ma se quello ha l'opinione, ma che macchina del fango? Ma smettila, ma quale macchina del fango? No, non c'è macchina del fango. Ma dai, fermi tutti, fermi. Ciao Vittorio, grazie, ciao. Stringere i denti e andare avanti! Ed ora... Traffico! La Zanzara. Ragazzi, a grande richiesta, caro Parenzo, il mitologico scontro Paco Spada di Fuoco da Belluno, nero di carnagione senegalese, e il signor Nicola da Bari, razzista dichiarato. Prendo i popcorn. Uno dei top assoluti. Nicola da Bari, vai Nicola. Nicola. Buonasera a tutta Italia, ma un grandissimo affanculo a Parenzo. Bene, ottimo. Anche vai. A lei e a tutta la sua adorata famiglia, caro. Detto questo, iniziamo dopo questi complimenti. Perfetto, anche a lei. Perfetto. Anche a lei. No, ma sta avvenendo con questi tempi che stiamo vivendo una botta di razzismo incredibile. Sì. Io quando ero piccolo, che andavo a scuola... Cioè, tu ti definisci tecnicamente un razzista? Ma orgoglioso anche di esserlo. Mi sono rotto i coglioni, sto per benissimo. Non si campa più. È un paese di merda per colpa della testa di cazzo come Parenzo. Sì, cioè, certo, stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di un paese invaso da Negretti. Invaso. Io quando Negretti ero piccolo, ma glielo dico subito perché Negretti quando ero piccolo qua. Andavo a scuola, la fame nel mondo dell'Africa. Io vedevo le foto dei bambini magri, con le braccine, con le ossa. Sì. Io vedo qua dei cazzoni alti, grossi, robusti che stanno a bere la birra per strada la mattina alla sera, tutti colorati. Ma che cazzo stiamo facendo? Ma dove stiamo andando a finire? Perché li chiami Negretti? Ecco, questo è interessante. Come cazzo li vuoi chiamare? Che colore sono? Verdi? No, ho capito, però perché tecnicamente da un punto di vista, se lei chiama loro Negretti, io potrei, però non lo farei mai, insomma. Ma che cazzo vuoi, tanto non conti niente. Esattamente. Anzi, io, cosa, visto che Obama se ne è tornato sull'albero a mangiare le banane, ecco pure qua. Per mantenere i parassiti come te siamo diventati lei non mantiene proprio niente. Pensi tu, nulla. Caro mio. Che lavoro fai, Nicola? Nicola il razzista di Bari, che lavoro fai? Io sono un imprenditore. Un imprenditore, pago una valanga. Un imprenditore. Lei non è un imprenditore. Ma cosa imprende lei? Ma lei non riesce neanche a mettere insieme. Ma lei non riesce a mettere insieme la cognizione del giorno e della notte. Produco vino e olio, Parenzo, tu non hai mai prodotto un cazzo, conosco un sacco di produttori. Parti anali. Sì. Questa è una citazione vecchia di tempo fa. Che fare con gli immigrati che sopraggiungono? Ma mandiamoli tutti a casa di Parenzo che staranno benissimo. Sì, li impiega nella sua raccolta delle olive, vero? A un certo punto chiama Paco. Paco da Belluno, vai Paco. Tu sei vergognoso, tu sei. Sì, sei bravo, vergognoso, Paco. Sei. Che palle. Bravo tu Paco. A testa vale. Bassa contro Cruciani, Paco, bravo. Tu sei un bastardo, sei vergognoso. Bravo. Ma cosa ho fatto adesso? No, se sei un bastardo vergognoso sei, perché aspetto solo che questi bastardi razzisti entrano a insultare i neri, tu li istiga ancora di più. Ma questi chiamano, ma che bravo, vuoi? Sei un bastardo, sei un bastardo. Noi siamo, non siamo inferiori a nessuno, cazzo. Adesso vediamo se hai, coraggio, se hai il coraggio di dire qualcosa a Nicola, quello di prima. È Nicola. Un bastardo Nicola, è un testa di cazzo. Adesso, voglio, adesso vediamo, no, adesso, sì, vediamo se hai il coraggio di dirlo. Passamilo. Sì, adesso vediamo. Ha chiamato Paco, detto anche spada di fuoco, e dai. Questa testa di cazzo che sono incappato con i neri perché hanno il cazzo piccolo, che cazzo c'entriamo noi? Beh, ma che c'entra adesso questo che c'entra? Questo è un dettaglio che però... Quindi si arriva allo scontro finale. Paco Nicola. Stai facendo gli highlights praticamente. Sì. Gli highlights. Esatto, bravo, bravo, bravo. Gli highlights di Paco versus Nicola. Highlights. Esatto, sì, highlights. Ma dai. Hai fatto arrabbiare. Aspetta, aspetta. Hai fatto arrabbiare. Hai fatto arrabbiare. Nicola? Sì. Aspetta un attimo che ti vuole dire qualcosa Paco. Paco da Belluno. Ehi, bello figo, passami bello figo. No, non è bello figo, figo, è Paco. Tu sei un bastardo Nicola, tu sei un cretino, guarda. Ehi, negretto, negretto, ecco, negro. Ecco qua. Ma perché, ride. Scusa, perché ride. Devi dire negro, brancello e cammello? Ma abbiamo sentito queste cose, chi ti ha detto che sei inferiore? Che c'è, qualche complesso? Figlio il cammello e torna al paese tuo se non ti va bene. Qua siamo fatti così. Culo, io in Italia si vivo da tanti anni, le tasse le pago come te. Magari tu non paghi neanche bravo, le tasse. Bravo, di cavo. Paga, paga, paga, neanche le tasse. Io le tasse le pago io. La casa la pago io. L'IMU la pago, testa di cazzo. Da dove vieni? Da dove vieni? Negretto, da dove vieni? Tu sei un delinquente. Tu sei un delinquente. Da dove vieni? Tu sei un delinquente. Da dove vieni? Da dove vieni? Aspetta. Testa di cazzo. Cos'è? Hai messo in piedi un forum sull'immigrazione per caso? Non ho capito, un forum di altissimo livello. Cretino, bravo, bravo, bravo. Prendi tu, fai la scarpetta, Negretto, fai la scarpetta. È schifoso. Ma perché lo chiami Negretto? È schifoso sto Nicola, è una persona veramente schifosa. Perché lo chiami Negretto? Nicola, non ho capito. È schifoso, perché è uno schifoso. Aspetta, per me non è un effetto. Io non vedo niente di male, per me è una cosa normale, perché quello è così e non è un'offesa. Parento, tu sei razzista, più negro schifoso. Di quello, capito Parento? Paco, non hai fatto Paco. Niente in vita tua. Paco! Testa di cazzo, che sei altro. Quanti sono italiani che cazzo. Lavorano all'estero? Quanti sono italiani che lavorano all'estero? Gli italiani che lavorano all'estero non hanno nessun testa diritto. Di prendono i calci nel culo e si fanno valere. In Italia, al paese mio, ci sono decine di tuoi simili. Decine di tuoi simili che stanno perseguiti per terra della birra pagati con le nostre tasse mentre i terremotati stanno al freddo e non prendono un euro, hai capito? Sei un coglione, testa di cazzo che sei altro. Abbiamo trasmesso Forum Immigrazione. Ciao Paco, ciao. Siamo al top! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Quando sento quel Nicola parlare mi vergogno di essere italiano. Forza Parenzo, siamo al top. Adesso pure i terroni razzisti ci stanno, abbiamo visto proprio tutto in Italia. I terroni, ci devono ricordare che c'è sempre qualcuno più a nord di loro. Nicola magari è una testa di cazzo, ma tu sei sicuramente un negro e un negro resti. Fantastico, Cruciani è riuscito a far litigare un negro con un terrone. Fantastico! Ascolta, se riesce a far litigare un cinese con uno zingaro, è il top. Grande Nicola da Bari, l'hai fatto nero a Parenzo. La maggioranza silenziosa è compatta con Paco da Belluno. Vai, spada di fuoco. Caro Parenzo, leggo sul web, sul cosiddetto web. Sì? A Milano due ragazzi pestati perché gay, mentre una dottoressa rivendica l'omofobia come diritto umano. Esatto. Medioevo Italia, anno 2017. Allora, io che sono ultra favorevole, come sai, non solo alle nozze gay, ma proprio al matrimonio come quello tra, tra uomo e donna, cioè identico, uguale, non bisognava senza cambiare dubbio. Niente, mettere solo una riga. Non le capisco, stesse tu norme, so già cosa stai per aspetta, dire. Le stesse norme sono estese, eccetera. E non sono vedi anche, una correlazione non solo, tra... Sono favorevolissimo anche all'adozione, ma anche due, tre figli, quattro, cinque, sei, favorevolissimo a quello che ha fatto Vendola, l'utero in affitto, proprio alla grandissima, pagare per avere figli, favorevolissimo, pagare per avere figli, pagare per avere figli. Capito? Pagare per avere figli. Io sono d'accordo a tutte queste cose qua. Tutte cose che i gay, tutto l'associazionismo gay propugna da anni, da anni. Allora io dico semplicemente una cosa. Qual è la relazione tra quello immaginavo che dice la dottoressa De Mari e due gay, due ragazzi gay che sono pestati? Te lo spiego subito. A parte che bisogna ovviamente provare che siano subito stati pestati è per evidente, questa roba qui. È evidente non che c'è non... nessuna relazione. È una puttanata pazzesca. È evidente i coglioni che se nel esistono... paese c'è un clima, il clima in cui ci sono clima, alcune persone, tra cui un medico. Mi fa impazzire sta cosa tra del cui clima. Un... Allora, nessun clima, il non clima. C'è un clima. Ma se ci sono alcune persone, pseudo peraltro sì, intellettuali, due coglioni per strada vanno a seguire la come quello che dovrebbe, dice la De Mari, ma dai, non dire come dovrebbe essere dai un medico ma che continua a dire che è contro natura l'omosessualità e che è ma un comportamento che va sanzionato e che addirittura si può irridere, ma è evidente ma a parte che non è vero, non ha mai detto questo, non ha mai detto questo, è evidente che se ci sono una cosa perso- che non ha detto, no, la dottoressa mai ha detto, detto che bisogna che ridere, anzi dice che li vanno ama curati. Dice che li ama, sì, li ha, sì, certo, li ama, li ama, li ama, cura, cura il buco del culo. Sostanzialmente cura quello i danni del buco del non culo. Non avevo amico bisogno mio di questa glossa per capire. Beh, così, la questione è quello che ha detto lei. Dico, che ora detto lei. Se è vero che nel paese ci sono alcuni paese ragazzi che si suicidano, nel paese la storia, la cronaca. Nel se paese è vero quello che ma dice dai la cronaca, ma no allora smettila con nel ma dai paese e col sottolineare le parole che non ti piacciono. Smettila perché adesso mi arrivo nel paese nella cronaca, nella adesso ripeti. Nella cronaca. Vabbè, nella... Allora? Sì, episodi di cronaca sono pieni di ragazzi che si uccidono dalla vergogna perché sì sono omosessuali. Perché ci sono, fammela dire tutta, sì, delle teste di cazzo. Come la dottoressa, lo sapevo che ti sarebbe piaciuto, delle teste di cazzo. No. Come la dottoressa che sì propugna cose di questo tipo e legittima il fatto che i ragazzini a scuola prendano in giro ma dei ragazzini omosessuali. Non e poi così quello si uccide. E poi quello si uccide. Ma se quando anche è i cosiddetti sua intellettuali. È colpa sua. Se poi non è colpa sua, ma se anche i cosiddetti intellettuali detto, vanno in giro a dire ma che tu è contro che natura essere omosessuali, che vuol credi dire che poi qualcuno si crede. Vuol dire sei che tu che credi agli intellettuali, io non ci ho mai creduto. Per sei, cui tu, sei, sei tu al ruolo tu, degli intellettuali. Tu. Fermi tutti, fermi tutti. Stufato, allora ragazzi, l'abbiamo già detto. Lui sa dire solo fermi tutti, dai no dai, ripete le parole, ma sarà mica la trasmissione questa qua. Allora, dai dai dai, rivoglia- fermi tutti. Fermo. Che è successo per dire fermi tutti? Cos'è successo? Rivogliamo Don Roberto, pronta una raccolta di firme, appello dei parrocchiani alla diocesi, l'abbiamo già perdonato, fatelo tornare. Decine di sottoscrizioni in poche ore, veglie di preghiera per il sacerdote 41enne. Abbiamo perdonato Don Roberto, lo rivogliamo con noi. La popolazione di Carbonara di Rovolon perdona Don Roberto per i suoi errori e chiede alla diocesi, al vescovo di Padova, di riassegnarlo alla parrocchia di Carbonara il prima possibile. Tanto per spiegare, questo Don Roberto di Carbonara di Rovolon è uno che avrebbe partecipato, ma pare che lo abbia ammesso egli stesso davanti ai giudici, poi è sparito. Abbia tranquillamente ammesso di avere partecipato alle orge. Ad alcune, per me va benissimo, può fare tutte le orge che vuole, però questi signori, questi parrocchiani, pare che ci sia, non tra quelli, non si sa bene se abbia raccolto le firme o no, ma anche una che partecipa al coro parrocchiale, una tale Elisa Brazzalotto. Riteniamo che Don Roberto in questo momento abbia bisogno di preghiere, siamo tutti sconvolti, il solo pensiero che potrebbe non tornare più a occuparsi della nostra comunità ci rattrista, perché è un prete speciale che in pochi anni aveva risollevato le sorti della parrocchia avvicinando alla chiesa molti giovani. Va benissimo, per carità, però dovete andare fino in fondo e dovete dire noi vogliamo questo prete qui e ce ne freghiamo se nella sagrestia si è andato con i trans, si ha fatto le orge con Don Contin, se andava a Cab Dagd a fare i mischioni, a fare i famosi mucchi, a fare le orge, ad andare con le prostitute, eccetera eccetera, non ce ne frega niente. Vogliamo il prete che scopa, perché probabilmente un prete che scopa può essere bravo come un prete che non scopa. Io direi, caro Parenzo, di verificare questa signora che si chiama Brazzalotto, da quello che risulta dalle cronache locali, perché vuole riaccogliere Don Roberto. Vediamo. Pizzicato insieme a Don Contin, ripeto, a fare orge in gran carrozza, cioè come piovesse, orge su orge, al di là dei reati, Pronto? Sì, Elisa Brazzalotto? Con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Cruciani, Radio 24, salve. Pronto? Sì, mi dica. Mi scusi se la disturbo. Senta, io so che lei ha organizzato una raccolta di firme per riavere Don Roberto nella vostra parrocchia. No, assolutamente. Non è lei? Non è vero. Non sono io. Lei non frequenta quella parrocchia? Senta, dove vuole arrivare? No, ma è una domanda, non si spaventi, non c'è nessuna... No, ma io non sono spaventata. Non si spaventi, non si... Che mi chiedo come si permette di chiamare il mio telefono, voglio dire. Allora, mi dispiace se l'ho disturbata, sì, io faccio di mestiere un mestiere particolare che si chiama il... La conosco perché ha fatto l'intervista a mio amico Mauro Corona, la conosco molto bene. Ok, benissimo, semplicemente... Io sono Parenzo, signora cara, buonasera. Non c'è nulla di che diciamo che per cui la vogliamo attaccare assolutamente, semplicemente abbiamo... Ma io le ho risposto. Non c'è nulla. Allora, perché quando le dico frequenta io la parrocchia? Io canto solo nel coro. Posso andare nel coro di Carbonara? Ma posso certo. Cantare? Posso essere cristiana? Posso frequentare la chiesa? Ma chi dice il contrario, scusi? E allora... Io ho detto il contrario, che lei non può frequentare la chiesa? No. Lei ha fatto una domanda, io le ho fatto una risposta. Ok. Lei è a favore del ritorno di Don Roberto nella sua parrocchia? Le posso fare? Tanto che sono a favore, assolutamente, ma è sottinteso. Perché sottinteso? Siccome ha fatto, sembra che abbia fatto delle cose. Ha seminato bene, è stato prima di tutto un grande prete, una bravissima persona per la comunità, per i giovani, perché era un paese morto e ha veramente riempito la chiesa, era un esempio per i ragazzi e noi, non, almeno personalmente, non posso dire assolutamente nada. No, nulla. D'accordo, però c'è un piccolo particolare, che lui stesso ha ammesso di avere partecipato a delle orge, a delle cose. Guardi, metto giù perché non mi, a me non comunque interessa. Guardi che il suo nome, il suo nome non è che l'abbiamo inventato noi, c'è sui giornali, Per cui io li leggo i giornali, io ho difeso come i cittadini, Don Roberto. No, ma guardi che io sono, se lei dice a me di quello che fa nella vita privata Don Roberto, che può andare a letto con chiunque, per me va bene. Buonanotte. Ma scusi, ma qual è il problema? Non ho capito perché è così ostile? Che cosa, qual è perché il problema? Sto lavorando, io lavoro. No, ma d'accordo, ma anch'io sto lavorando. Anch'io sto lavorando, siccome lei pubblicamente si è esposta. Non ho niente da dire. No, ma io se le sto... Pubblicamente non mi ho esposto. Sì, è una delle... Ha fatto delle dichiarazioni che sono sui giornali, con nome e cognome, ha parlato con qualcuno sul ritorno di Don Roberto, sul Gazzettino, su altri giornali. Li leggiamo assieme questi articoli. Ma non c'è nessun articolo, ci sono delle frasi in cui lei dice di essere d'accordo col ritorno di Don Roberto in parrocchia, appunto. E cosa significa? Lo abbiamo detto tutti. Non ho mica. Ma qual è il problema? Lei mi ha fatto una domanda. Ma scusi, non ho capito. Ma le ho detto che è una criminale per caso? Le ho detto che sta facendo del male? Le ho detto che sta facendo una cosa che non va bene? Ma vedete come siete? Ma come siete cosa? Sto chiedendo una cosa. Di coglioni in questi giorni. Il rispetto ci va, lo ha detto anche il sacerdote ieri. Sì, è ora di finirla perché portate all'esasperazione. Noi. Ma dov'è la mancanza di rispetto? Date le persone. Noi, ma dire, anche la sua famiglia, lei mi ha fatto una domanda, sì. È inutile che mi continui a rifare, io ho solo detto come gruppo artistico del presepio, come coro, che per me Don Roberto, per noi, è stata una grande persona, è stato scritto, punto e basta. E allora? Mi sembra di essere... ecco. No, ma ecco, è chiarissimo, è chiarissimo. È chiarissima la cosa, ma qual è? Ma chi ha detto dove vogliamo noi? Scusi un attimo, lei non... Comunque ragazzi, questi non hanno il coraggio di andare fino in fondo. Dovrebbero dire a noi di quello che fa Don Roberto, siccome è bravo, siccome è un trascinatore, siccome si vede che è un trascinatore, siccome è un uomo di mondo, siccome è uno che capisce le persone, eccetera eccetera, se scopa non ce ne frega niente. Questo dovrebbero dire questi qua. Se tromba non ce ne frega niente. Invece no, non ci importa sapere qua, su, giù. Ci scocciate, noi scocciamo. Ma è uscito fuori questo qua che tromba pure con la vecchietta dai, su. È un grosso filosofo. Oh, è l'uomo della chiesa con due cose così, a ruggere. Beh, insomma, in questo caso questo commentino non so quanto. Ma come, la brega, no? Ideologico, brega. Va bene ragazzi, dove andiamo? Roberto, provincia di Pescara, dai. Andiamo a casa ormai, dai. Basta, ma stai tranquillo, ma stai tranquillo, dai, mamma mia, sempre con st'aria scocciata che rompe i coglioni, dai, Roberto, dai. Pronto? Dimmi. Roberto. Ciao Cruciani, ciao. Senti, io volevo intervenire per la tragedia di Rigopiano. Che vuoi dire su Rigopiano che già non sappiamo? No, diciamo che già non abbiamo sentito tutto, però adesso no, non sappiamo niente in realtà, cioè che già non sappiamo, nel senso che la procura ha iniziato un'indagine, pare che i ritardi non fossero decisivi, così hanno detto oggi, non lo so. Sono tutte cose di cronaca, di che dobbiamo parlare? Infatti secondo me l'unico punto di vista serio era che non si doveva permettere che un hotel fosse aperto quando c'è il rischio di isolare. Ma ci sono un sacco, di alberghi che stanno in una isolati, hanno successo anche per quello, dai, su, cioè, che vuol dire non bisognava aprire l'albergo? Ma chi se ne frega ormai, dai, su, l'albergo non si doveva permettere. Che cazzo vuol dire? Cosa non si doveva permettere? Non si doveva permettere che si tenesse aperto un albergo con 30 persone dentro, a prescindere dalla valanga che c'è stata. Io ti assicuro che secondo me nessuno nella provincia di Pescara, in Abruzzo, poteva pensare che lì, in quel posto, si verificasse una valanga. Appunto, a maggior ragione. E quindi cosa chiudi? Chiudo il fatto che una volta che si è verificata, non è che adesso si cercano responsabili perché non è partita la turbina o quant'altro. Non si deve assolutamente permettere, era già successo il 2012 o il 2015. Ma cosa? E se avesse avuto un infarto lì? La bufera con l'infarto, uno l'infarto ce lo può avere. Ma poi uno è responsabile di se stesso, no? Ma che vuol dire? Se vai in un posto. Ho sentito quel radiospettatore prima, parlava di elicotteri, si poteva volare. No, assolutamente, non si poteva volare. Non era possibile. Ah, che era quello dei Chinook là. Sì, esatto. È una follia totale. Chinook, guarda, quello ho sentito stasera, dai, si poteva arrivare. Diglielo adesso, dai. Ripete la parola Chinook. Ma quello prima, oggettivamente era ridicolo quello del Chinook. Sì, no, questo è oggettivo. io sinceramente penso, Roberto, non sai che dire, la realtà è che non sai che dire. Salvo da Catania, dai. Va bene lo stesso, per carità, anche se uno non sa che dire, va bene. Salvo da Catania, dai. Sì, buonasera. Sì, vai, salve. Io volevo dire una cosa a Parenzo. Vorrei capire, prego, perché salve. È sbagliato dire che fa male prendere nel culo. Adesso, cioè, perché deve essere un'offesa dire... Vabbè, non no. È che dice solo questo adesso, la De Mari. La De Mari non dice solo questo. Veda, se si limitasse a dire metterlo in quel posto provoca ogni tanto delle lesioni, uno dice, vabbè, chi se ne frega. Ma non è che si limita a quello. Dice cioè, riduce la questione, i gay, eccetera, all'incularella. Adesso, amico al di là di questo linguaggio... Ma è sbagliato pure dire... che non si può criticare il mondo omosessuale. Ma chi ha detto che non si può criticare il mondo siamo omosessuale? Siamo passibili di querele. Uno può criticare qualunque cosa, ma dipende che cosa dice. Ma mi pare talmente banale. Uno può anche dire odio i gay. Uno può anche dire odio i gay. Ecco, questo è il punto che invece mi separa dall'analisi del professor Cruciani. Io non lo dico naturalmente. Io ma non lo credo. C'è chi dice io non sopporto i froci e odio i froci. L'odio non è un diritto. Ma che stai l'odio dicendo? Non è un diritto. È un diritto dire l'omosessualità. Non è un diritto. Scientificamente è un fatto contro natura. Ma chi l'ha detto? Tu sei convinto che è contro natura, Salvo? No, è quello che dice la dottoressa. Ma tu sei convinto che è contro natura? Io dico che secondo me è sbagliato essere dal punto di vista scientifico. Ma cosa è scientifico? Ma l'amore cosa c'entra dal punto di vista scientifico, scusi? No, cosa c'entra parlo. L'amore dal punto perché di vista scientifico? Salvo. E quindi è giusto cosa? Amare un cane come si ama una persona? È concreto. Ma cosa, eccolo qua. Perché il paragone qual è? 49 per forza. Ma non ho capito. Ho detto chiudi. Per te amare l'amore tra due uomini o tra due donne è uguale a quello tra un uomo e un cane? dal punto di vista sentimentale, sì, può anche darsi. Ma lei che infanzia dal ha punto avuto? Di vista, no, io dico, ma lei che, punto che di infanzia vista... ha avuto lei, diciamo, sua, cioè, per avere ascolti, questi... ascolti, da, ha avuto so, una buona infanzia? Non, probabilmente lei no. No, io però normalissima, punto... anzi, Salvo, molto la realtà, anche, rispolverando una mia vecchia metafora, la realtà, ecco, è che intorno a te è pieno di froci, questo è il punto. Lo sai, no? Ma infatti io so, cioè, non ho nessun problema, anzi io ho tanti amici omosessuali. Tanti amici, come cioè, al solito, sì. Però poi il loro amore è come quello tra un uomo e un cane. Quello tra un uomo e un cane. No, eh sì, no, la no, relazione che tu hai detto, la relazione. Ma ti cioè, vuoi sentire? Per me è sbagliato scientificamente. È sbagliato. Cioè, ma cosa vuol dire scientificamente sbagliato? È sbagliato. Ma è l'hai sbagliato mai messo in culo a una donna, eccolo, te o ma no? Che c'entra? No, no, ma lo voglio chiedere, tecnica. L'hai mai messo in culo a una donna? No, perché dal punto di vista naturale è sbagliato. È sbagliato. Vedi che non l'ho mai messo in culo a una donna? Ma è chiaro, se uno non l'ha messo in culo a una donna, non può capire. Ma non può capire. Ma è normale. Ma che inchiesta giornalistica? Ma è un'inchiesta, ma quello è forse. Scusa, se Salvo non l'ha mai messo in culo a una donna, è evidente. Che capito, non può capire, ma è evidente che non può capire quello che succede. Ma forse Parenzo è a favore, ma perché lui l'ha provato. Lui infatti no, ma per ma io non ho capito perché quello se, che faccio Salvo, io non la deve interessare. Salvo, non ho capito una cosa. Salvo. Perché no? Perché ritieni innaturale metterlo in culo? Spiegami. No. E per ma... me cioè, lo spiega. La riproduzione umana. Ma che c'entra la riproduzione? Approfondita. Chiudiamo, dai ragazzi, chiudiamo. Meglio. Ci sentiamo domani. Fidati di zio. Fidati di zio, come dicono a Roma. Zio Carlo, meglio, te lo ricordi? Zio Carlo di Romanzo zio Criminale. Carlo, esatto. Zio Carlo. Fido di mafioso zio. Era zio Carlo. Meglio chiudere. Ciao. Un po' di tempo fa non lo volevi prendere nel culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.